Allora parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, niente male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua. Che hanno anche esultato. Finalmente si sono detti, dopo 20 anni abbiamo tolto di mezzo l'ostacolo che ci ha sempre impedito la conquista definitiva del potere. Ma si sbagliano. Io, come vedete, sono ancora qui. Beh, caro David, per alcuni è un incubo, un vero e proprio incubo. Però bisogna dire che la giornata di oggi fa esultare tutti i berlusconiani, contro gli altri berlusconiani. Ti elenco solo qualche cosa, la elenco al grande popolo della Zanzara, all'immenso popolo della Zanzara. Allora, un ministro marocchino. Certo, un ministro marocchino, e ho detto tutto, un ministro marocchino. Ma che fai, sei razzista? No, però. Che fai, sei razzista? Secondo te? Però dico, il Marocco non è il campione della democrazia, non è proprio quello. Cioè, secondo te un ministro marocchino è meno credibile di un ministro italiano? Devo rispondere francamente? Sì. Assolutamente. Vabbè, sì. Un ministro marocchino dice che Ruby era maggiorenne quando frequentava Berlusconi e ha mandato un plico canali diplomatici, un plico in Italia. E Gesù è morto dal freddo. Vabbè, stai tranquillo. Adesso l'unica domanda che mi faccio è perché non ne ha parlato prima il signore primo ministro marocchino. Vabbè, però abbiamo tempo. Ma Ghedini esulta, Ghedini. Beh, c'è Scajola, C'è Scajola, assolto per la casa a sua insaputa. In primo grado. Vergognati. Calmati. Hai maramaldeggiato per una vita sulla casa a sua insaputa. Sì, rimane il fatto politico. C'è stata l'assoluzione in primo grado. Per rimane comunque illecito. Per finanziamento illecito, che non sono riuscito a dimostrarlo ai magistrati. Ma che c'entra? Ma rimane il fatto politico, che è una casa che comunque è stata pagata meno di quello che era il valore di mercato. Questo, il fatto politico rimane. Politico. Ma vogliamo risentire Scajola avvicinato da Lucci delle Iene qualche giorno fa, quando c'è stata la convention di Forza Italia proprio sulla casa? E amato quel paese, dai. Più giù. Claudio, mi hanno comprato una casa e non me ne ero accorto. Mi hanno regalata, no? Ma come mi devo comportare in questo caso? Allora, questo qui che sta usando lei, è un metodo da chi non conosce e parla. Lei, se si fosse seguito il processo, lei avrebbe capito non solo che lei è un mentitore, ma è uno disinformato. Vada, si studia le carte. Ma questa può essere la nostra nuova casa? Questo nuovo partito che esce? Io spero sia una buona casa per non avere degli stronzi come lei, capisci? Non mi decido. Devo dire la verità. Di solito Lucci esce sempre vincitore da queste cose, eh? E in questo caso Scagliolino gli ha dato una bastonata, Gli ha dato una bastonata. Faceva lo spiritoso. Io sono ancora qua. Impazza Berlusconi, cari miei. Non so se sia stato resuscitato da Renzi. Però insomma, la De Girolamo che forse torna da Silvio, forse no, pare che la Pascale sia contraria. Illazioni. Però comunque è un punto a favore del Berlusca, Non c'è dubbio. E torna pure Cosentino. Ecco, questo è interessante. Cosentino, amici miei. Sentiamolo, se fossi Berlusconi avrei candidato Cosentino. Ha il dente avvelenato, il Cosentino, il RAS. Uno dei RAS della Campania. Se fossi stato al posto di Berlusconi, io avrei candidato Cosentino. Io sono sempre del parere che un padre... Tocca dire una cosa su Renzi, amico mio. Tocca dire una cosa su Renzi, lo diciamo al popolo della Zanzara. Sull'Italia, come immagino. Beh, io dico una cosa. C'è un segretario che ha preso alle primarie il 68%, l'ho scritto anche su Twitter con moltissime reazioni. Il 68% alle primarie. Dopodiché fa un accordo con Berlusconi, e non solo con Berlusconi. Questo accordo viene sottoposto alla direzione del partito, dove ci sono tutti. non c'è un voto contro, certo ci sono degli astenuti, ma la cosa passa a larghissima maggioranza. Adesso cosa fa il Partito Democratico? Scusate se vi annoio con queste pazzecole. Presenta gli emendamenti. 35 emendamenti, di cui 34 sì, non diciamo autorizzati da Morale, Renzi nel suo partito non conta, non riesce a governare. Ma non è che non conta, morale, che è la solita morale, storia, morale. La solita storia. Col cuore che batte più forte. La vita che va. Renzi, sentiamo Renzi, se le riforme vengono affossate, stop alla legislatura. Può darsi pure che sia quello che vuole in realtà. Sì, e qualcuno dovrà pure votare lo stop alla legislatura. Se invece si affossa anche questa possibilità di riforme, beh, allora diventa davvero delicato immaginare che ci sia uno spazio di speranza per questa legislatura. Io sono ancora qua. Quanta carne al fuoco oggi, ma io inizierei, caro David, mentre ti smentisco subito la storia di Farinetti successore, a parte che l'interim dell'agricoltura, ministero che andrebbe soppresso perché gli italiani votarono un referendum. Sì, quel ministero lì conta molto. Vabbè, lascia perdere adesso, non approfondire. Non la questione è molto semplice, però... l'interim è stato preso da Letta, era sì, in corsa, dicevano i giornali, Farinetti, tutte fandonie, no, perché Farinetti al sottoscritto ha detto che non farà mai ministro né politico, però magari poi mi sbaglio io. Ma quello fa l'imprenditore, che gli frega di andare a fare bubù a un ministero? Poi parleremo anche di Mastrapasqua. Ma con noi questa sera... Mastrapasqua. Beh, che non è Mastrapasqua, che era un giocatore, tu non lo conosci, no. Mastrapasqua, un giocatore di calcio, Della Lazio, di che cosa? Sì, della Lazio, di altre squadre, dell'Atalanta. Sì. Mastrapasqua, non Mastropasqua. Quello dell'Inps. Mister Poltrone. Abbiamo un disoccupato. No, poi... uno dei tanti milioni di italiani, molto bene. E anche organizzatore di cene eleganti. È dell'Electrolux, un disoccupato dell'Electrolux, no, l'azienda. No, organizzatore di cene eleganti, secondo quello che dice Berlusconi. Ma il problema vero è questo, che io voglio assumerlo come inviato della Zanzara. Inviato. Emilio Fede, direttore, buonasera. Carissimi amici, buongiorno, buonasera. Di questo passo resterete disoccupati voi e io organizzerò anche la Zanzara con tutti quelli che dico io, capito? Scusa, mi sto a toccare le palle. Scusa, la voce Emilio, bassa, mi sto toccando i cabasisi. Non ti abbandonerò mai. Oh, ma noi, nemmeno noi. Però io mi sto toccando un po' i cabasisi, come si dice in Sicilia. Sardegna. Com'è che si dice? Pensa a quelli che non ce l'hanno. Non ce l'hanno. Adesso, gli uomini che non ce l'hanno, dici cabasisi. Chi sono quelli che non ce l'hanno? Non c'è le donne, per esempio. No, gli uomini che non ce l'hanno, lui ha detto. Beh, no, le palle, dice. Beh, le palle, molti uomini. Il senso metaforico. Molti uomini non hanno le palle. Molti uomini. Uno è depallato. Scusami un attimo, Emilio, ma Berlusconi dice in questa intervista al Sunday Times che tu l'idea delle scene eleganti, sostanzialmente di quello che viene chiamato bunga bunga, sì, ce l'ha avuta Emilio Fede. Vogliamo smentire questa cosa oppure no? No, dunque, allora io mi sono fatto tradurre esattamente, no? Lui dice nei momenti, quei momenti di solitudine per sì, lui, sì, momenti di tristezza per sì, lui, evidentemente con tutto quello che accadeva, sì, eccetera, la madre. Cioè, allora gli amici sì, hanno avuto l'idea di organizzare delle cene qualche volta per tenermi allegro. Ma non dice proprio un'idea di Emilio Fede. Ma scusa, ma se uno non cita Emilio Fede, chi deve citare? Crucetti, come ti chiami? No, Cruciani, no, Cruciani, Parenzo. Allora, detto questo, evidentemente che poi magari farà titolo Emilio Fede, che io... Allora, tu diciamola però in maniera chiara, io non ho mai organizzato una cena elegante. No, io ho sempre partecipato a cene eleganti e quando ho potuto ho dato un contributo a selezionare le persone, cioè che fossero delle persone eleganti per quanto mi riguardava. L'assaggiatore, insomma, no? Certo, l'assaggiatore, come no? E l'accusa, sette anni di reclusione. Vabbè, tanto che te frega in carcere, non ce l'hai mai. No, non me frega proprio niente. Di che cosa? Di fare l'assaggiatore? Ma magari, alla mia età, che assaggio? Magari, dici, magari ci avessi la forza. Il problema... Ma te ti tira ancora, Emilio, scusa. No. No. Non ti tira più. Come? Non ti tira più. Quando a Berlusconi hanno fatto la stampa estera, credo, sì, non so se una barzelletta, gli hanno chiesto, presidente, ma lei toccava le parti sì, intime delle ragazze e le ragazze le parti intime di Emilio Fede, lui ha risposto, sì, ma era una caccia al tesoro, riferendosi a me. E da quanto tempo è che non c'è più? Vabbè, ognuno. Non tira? Non pervenuto. Ma credo... 5 anni. Saranno 7 ore. Volevo dire 7 anni. Sette anni. Vabbè, ma comunque guarda che non è drammatica la cosa. No. No, a un certo punto uno raggiunge anche la pace dei sensi, no, direttore? Scusa. Sì, la pace dei sensi. Ma magari la raggiungessi io presto, io dovrei raggiungerla presto. Sì, che tutte le volte che parlo con qualcuno mi chiedono tu come sei fisicamente. Io ho detto piccolo, grasso e brutto. perché le donne hanno una sorta di simpatia nei tuoi confronti, chissà perché. Nei miei o nei tuoi? Se sei piccolo sei un provocatore, sì, sì. Come? Ah, nei miei o no, nei tuoi? No, nei tuoi, Cruciani. Ah, nei miei, vabbè, però Giuseppe. Prima o poi finirà anche per me, non ti credere. Prima o poi si chiude anche la serranda qui, si tira giù la Claire, si tira giù la Claire. Senti, comunque no, adesso a parte gli scherzi, comunque vogliamo smentire una volta per tutte questa cosa. Io non ho mai organizzato le cene eleganti. Davo un contributo, ogni tanto davo un contributo. Del selezionato. Ma no, lui, io ho chiesto a chi accanto a lui... Ma qual è la no, cioè lui ha detto, nei momenti eccetera eccetera, allora gli amici si sono occupati di fargli compagnia. Beh, sembrava proprio uno scaricabarile. Io non ho organizzato niente, organizzava tutto Emilio e gli altri, amico mio. Io non organizzo mai le cene in casa che non sono nella mia casa. Mai organizzato una cena. Però io rivendico che cosa? Un rapporto di amicizia di 27 anni. Certo. Il consigliere. Ho dato un contributo ogni tanto. Ma abbiamo fatto. Poi il problema era che qualche volta si organizzava la cena con gli amici, anche con personaggi politici. Certo. Ma lo sai la notizia vera di oggi? Qual è la grandissima notizia di oggi che abbiamo detto prima? Quello del ministro? Beh, il ministro marocchino. Il ministro marocchino che dice. Ministro marocchino che dice che Rubi era maggiorenne all'epoca dei fatti, quando frequentava insomma Arcore eccetera, era maggiorenne. Tu capisci, Emilio, tu ci che credi però... o no? Cioè, no, allora dice esattamente infatti che a febbraio lei era maggiorenne, ma devo dire la verità, io tutte le volte che venivo chiamato in causa, ma lo sapevi, non lo sapevi, io manco mi ricordavo di averla incontrata all'Etoliani nella famosa discussa eccetera eccetera di cose degli Etoliani. Ho detto però sempre di non sapere che era minorenne e di non aver mai dovuto dire a Berlusconi se era maggiorenne, perché a lui non gli vabbè, ma insomma mai. Voglio dire, questo ministro marocchino è credibile secondo te o no, sto ministro marocchino? Ragazzi, se non mettiamo in discussione anche i ministri degli altri governi, che dobbiamo dire allora? No, però capisci, Emilio, che il governo di Rabat non è il governo di Londra, c'è è il governo di Rabat. C'è un estratto dell'atto di nascita, viene mandato in Italia con un plico diplomatico, ma perché bisogna sempre... Ma Rabat, voglio dire, parliamo del Marocco, di un governo, di un paese importante, anche politicamente importante nell'area moderata. Comunque, ma che esce adesso, Emilio? Possiamo pensare che il ministro delle riforme sociali così crei un falso di questo genere? No, sai cos'è la preoccupazione? Qual che è? Poi alla fine finiranno con non credere neanche a lui. Anzi, lo incrimineranno per falsa testimonianza. Scusi, Emilio, vogliamo mandare un grande abbraccio al ministro marocchino? Mandiamo un grande abbraccio. Grazie, ministro marocchino. Shukran, ministro, shukran. Shukran vuol dire grazie. Inshallah. Beh, questo è sempre buono. Traffico, torniamo subito. Emilio Fede, scatenatissimo. Disoccupato, perché disoccupato? 15.000 sono pochi? Quale 15.000? Non c'è campi, non c'è campi. Mamma va, ma cosa dici? 15.000 se mettiamo insieme i miei, i tuoi e quelli di David. Sì, come stai messo adesso, scusa? Io? Sono messo seduto in poltrona a casa mia. Come sei messo economicamente? Dico. Economicamente, guarda, ma se io vi raccontassi la storia, ragazzi, la storia della valigetta mi ha rovinato la vita. Lo so, ma dici che non riesci a vivere con 15.000 al mese? No, io 15.000 euro al mese... No, mai visti. Mamma mia, come stiamo messi. Non fa notizia. Ci sono altre cose, carne al fuoco moltissimo, Emilio. Adesso ti ragguaglierò. Che carogna che siete, vabbè. Sei ancora in casa, Simo? Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Allora, bisogna dire che modificare un documento in Marocco non è complicato, diciamolo subito. Però noi vogliamo credere a questo ministro marocchino fino a prova contraria. E Emilio Fede ha espresso proprio la sua fiducia in questo ministro marocchino. D'altra parte Berlusconi chiamò la questura, ovviamente perché pensava fosse minorenne, altrimenti non avrebbe chiamato la questura. Adesso si viene a sapere che forse all'epoca era maggiorenne. Però la questione è molto semplice, caro Fede. C'è stata oggi una vicenda, le dimissioni della signora De Girolamo. Parliamone. Io devo dire la verità, la Pascale si è espressa in termini durissimi, non ha smentito queste cose che sono uscite sul Corriere del Mezzogiorno. Ha detto che è indignata per tutto quello che ha fatto la De Girolamo, non ha alcuna intenzione di sentire in un futuro prossimo. Non la vuole in Forza Italia. Gli alfaniani sono stati peggio di Fini, il presidente Berlusconi non ha dimenticato, hanno usato l'Italia per i propri interessi personali. Ma perché la Pascale si intromette in maniera così pesante nella vicenda? Guardate, voglio deludervi. Io conosco benissimo Francesca Pascal, non sono certamente i termini con i quali lei si rivolge nessuno, perché è una ragazza veramente proprio in punta di piedi. Il problema, anzi, sai che ti Ma ci capisce di politica, secondo te, più della Lario? No, ma ti posso dire, io oggi le ho mandato un messaggio, dico, ma state cercando un capolista, ma capolista deve essere Francesca Pascal, capolista, perché non fare capolista Francesca Pascal? Perché no? Ma dove, alle europee dici? Alle europee, sì, naturalmente. Tu dici, la Pascal deve andare in Parlamento. Certo, la Pascal deve andare in Parlamento. Con Dudu, sicuramente simpatia. Cioè, beh, quello non c'è dubbio, è Pascal con Dudu insieme, campagna elettorale Pascal e Dudu. Ma non credo, anche tu, vabbè, vuol dire c'è una illustre parlamentare del PDL che va in Parlamento e si porta la bambina. Beh, il cane è un po' diverso, diciamo. Dici il cane? No, lo so, è diverso, dico, ma se vogliamo pensare a qualcuno che porti qualcosa, certo, non Dudu. Senti, ma non ho capito, ma lei che ti ha risposto a questo messaggio? No, lei non mi ha risposto affatto. Vabbè, ti pareva. Non mi ha risposto affatto. Io lo state cercando, scusate. Perché non tu in Parlamento? Altro che Toti, dici, no? Ma Toti in Parlamento, fra i due personaggi, allora Toti è simpatico. Quando io dico non mentire. No, guarda, è una persona, tra l'altro lui abita a due passi da casa mia, quindi sono avvantaggiato avere un consigliere politico che ha due passi. Beh, però non vi frequentate. Lo conosco bene. È vero che è un personaggio tranquillo, posato, cioè io forse detto, troppo, ripeto, eh? È tutto il contrario mio, perché io mandavo a fanculo e poi magari chiedevo scusa a lui. Però scusami, tu ti saresti presentato con la tutina bianca, beh, hai fatto pure di peggio, diciamo. Però no, come di peggio direi che no, in pubblico forse no, però devo dire la verità, ti saresti presentato con la tuta bianca in balcone? Dilla la verità. Devo dire la verità? No. Accanto a Berlusconi? Sì. Eh sì. Forse pure peggio. Pur di stare accanto pure a nudo, Berlusconi. Pure nudo. Beh, vabbè, nudo l'avrei fatto sfigurare, no? Ma comunque guarda, io anche in mutande, diciamo, anche in mutande sì. In mutande. Sì. Ma no, perché non ho più il figlio. Se Berlusconi ti avesse chiesto, vieni con me, ti presentati in balcone con me, accanto coi a me. Con i boxer bianchi. No. Con la canottiera, no. Cioè, ci saresti andato, dai. No, anche perché la canottiera non la porto. I boxer non li porto, porto gli slip, no. Ma comunque, al di là di tutto, voglio dire, se dovessi giudicare l'immagine così, era un po', cioè io al posto di Toti non mi sarei presentato sul balcone, non è il problema di essere vestito di bianco o meno, perché voglio dire, è un contrasto immenso, no? Poi magari l'avranno pure pensata, che ne so io, cioè voglio dire, Berlusconi è Berlusconi, vi dico una cosa, 27 Dimmi. Anni, sì. Io non sono mai andato una volta in una manifestazione pubblica con Berlusconi, e quando lui c'era io ero 10 passi indietro, ma è un altro discorso. Certo, se lui vuole proporlo come consigliere politico, fa bene. No, vuole, lo ha ammesso. Lo ha ammesso come consigliere politico. Vuole. Prima. Lo ha ammesso come consigliere politico. Cioè. Sì, vabbè, voglio dire, quindi darei la popolarità. La popolarità può nascere o che Emilio Fede che dice che figura di merda, non riferendomi a questo, oppure con Toti che, vedi, state chiedendo sul fatto. Vabbè, che, comunque sei ma troppo poi di non era una camicina, No, era una tuta, era proprio una tuta. Una tuta, certo, insomma, così. Poi io conosco quella spa, quel bellissimo posto. Sì, dove sono stato. Sì. Sono invidioso, non lo dite a nessuno. Di cosa? Di non essere andato? C'ha un grande culo, in senso. Ma questo l'hai già detto più volte. L'ho già detto, sì. L'hai già detto che Beru ha avuto un grande culo. Ha avuto culo. Sì, vabbè, ma tanto non è eterno, Chi? Il culo. Ah, tutto no. Passa. Come sai, non è eterno, Sì, vabbè, dillo a me. Appunto. Disoccupato e ridotto. È ridotta la zanzara. Ma scusa, è ridotto adesso. Scusa, però, ridotto. Ci vedi veramente per il culo. Scusa, disoccupato perché? Ma veramente non ti danno più un euro a Mediaset? No, io a Mediaset ho il massimo rispetto. Ti danno i soldi, te li danno. Con la massima rapidità sollevato dall'incarico di Detroit del TG4, va benissimo, se va bene per loro va bene per me. Adesso è arrivato Giordano al TG4. Adesso arriva Giordano, prima c'era stato Toti, io non lo vedo perché soffro un po'. Soffri. Stasera io passo. Ma scusa, a te ti danno i soldi per fare cosa? Niente sostanzialmente. No, io sto preparando dei programmi. Ma quale programmi? Dai, sì, è vero, sta preparando dei programmi, lo so anche. Ma sì, lo so, vabbè, questo ma dai. È verissimo. Ma sono passati anni, dai. No, su. No, sta preparando dei format con autori di grande eccellenza, dai, invece. Su. Sì, bravo, sì, lo so. Hai detto bene. È vero. Con autori di grande eccellenza. Comunque Rubi maggiorenne, tu lo sapevi? Lo intuivi? Quando hai conosciuto Rubi? Mai ti è venuto in mente che fosse minorenne? ma non me ne fregava niente di Rubi. È una persona, l'ho vista lì in quella serata lì strana per un'ora e sono andato via a consegnare i premi, ma non lo so. Ma guardate che Rubi per me non ha mai rappresentato un problema di nessun genere. Quanto però, se tu interessa, io certamente sono trattato con un contratto di massimo rispetto. Per non fare niente merito per adesso. Vabbè, ha dato la vita lui in quella comunque azienda. Berlusconi ha detto, Berlusconi ha detto che tu alla fine, e lo so che la traduzione è diversa, che un po' le cene eleganti è stata un'idea tua, cioè quella di affollare la casa di personaggi vari, cene eleganti, non sto dicendo, non scoperecce, cene eleganti è stata un'idea tua, dai Emilio. Se è stata un'idea mia, smentiscila questa cosa in maniera categorica. Perché la devo smentire? Lui ha detto sempre che le persone le invitava a lui, che io non l'ho mai invitato nessuno. Oh, ecco. Quindi se l'idea è di dire facciamo, ma certamente, ma ragazzi, ma stiamo scherzando, voglio dire, ma era il Presidente del Consiglio e non è che invitavi tu, non è che organizzavi tu per conto suo, no? No, non poteva assolutamente farlo. Certo, ma non c'è dubbio. lui stesso dice. Emilio non invitava perché tutte le telefonate le faceva lui, invitava le persone, le invitava lui, ma non c'è niente di male, anche sarebbe, ma figuriamoci. Comunque guarda Emilio, devo dire una cosa, mi hai dato una grande cosa dicendo che non ti funziona più, perché io sono invidioso di questa situazione. Di quale? Del fatto che non ti tira più. Perché sei invidioso? Ma non sono mica un concorrente. Ma no, ma sono invidioso non per concorrenza, perché vorrei anch'io arrivare ogni tanto alla pace dei sensi, capito? Sai qual è la verità? Qual è la verità? Dimmi. La verità. Che io ho avuto la fortuna nella vita, ho avuto sempre momenti stupendi. Sì. Ma il momento stupendo è di aver trovato una donna. Sì. Madonna, che non mi ha mai abbandonato. Ho capito, però quello sì, quello è vero. Però anche la pace dei sensi serve da questo punto di vista, altrimenti uno. Ma la pace dei sensi, che ci sia o non ci sia, non c'è una persona delle ragazze che si discute che dica che io ho neanche azzardato una palpatina, diciamo, una palpatina. No, una toccatina, ma neanche un complimento esagerato. Ciao ragazzi, vi voglio bene, ciao. Quale possibilità c'è che si faccia la legge e non si vada a votare? Perché di solito poi si va a votare dopo la Io ho sempre detto che se si carica una pistola, la pistola spara. Quindi sì, lei spera, pensa ancora che se si fa la legge si va a votare? Assolutamente sì. Il moderato Brunetta, se si carica una pistola, poi si va a votare. Che stai facendo? Scusa. No, Brunetta. Cretino. Una parlamentare europea, si chiama Lara Comi. Come no? Dimora abitualmente nelle trasmissioni televisive di sport della Lombardia. Molti magari non lo sanno, perché noi andiamo in onda in tutta Italia. Lo sai che andiamo in onda in tutta Italia, no, David? Sì, certo. Allora, la parlamentare europea Lara Comi è protagonista sempre di duetti eccezionali con il signor Tiziano Crudeli. A un certo punto, queste sono le grandi campagne elettorali di Lara Comi, che abbraccio fortissimamente. A un certo punto, durante la partita del Milan dell'altro giorno, a Cagliari pareggia Balotelli. Senti cosa accade tra Tiziano Crudeli e Lara Comi. Balo, gol! Balotelli lo mezza! Balotelli! Balotelli! Chi va a girare? Io vado a baciare due donne, non una sola, ne bacio due di donne, due donne, un onorevole ti bacio. Ma devo tranquillizzarla perché la già la vedo una ricola, per cortesia. Un po' imbarazzata, ma non troppo, alla fine la Comi riceve il bacio di Tiziano Crudeli, che tu conosci bene, ma certo. Ma secondo te c'è o ci fa? Entrambe. Dice, abbiamo lavorato insieme a lungo col signor, ma non ha mai avuto problemi di cuore, cose di questo tipo, infartuato. No, una volta è stato male durante la trasmissione. No, poveri, adesso mica io l'auguro, per carità, però ogni tanto scoppia, mi sembra il signor Corno. Perché non fai sentire anche il signor Corno, che no, è l'altro. Sono due must da decenni ormai, da decenni. Perché allora, Corno è interista, perché sennò la gente non capisce. E invece il signor Crudeli, ma lo sanno. Il grande dilemma di questi giorni, anzi di queste ore. Cosa è cambiato nella testa di Nunzia De Girolamo da quando qualche giorno fa, sia alla Camera che in varie trasmissioni, diceva: io non ho fatto niente? non ho fatto nulla, è un complotto, le mie dimissioni sono nella mano, nelle mani di Letta e Alfano. E adesso invece si è dimessa, De Girolamo. Però io ho detto sin dall'inizio di questa bruttissima storia che le mie dimissioni sono nelle mani del presidente Letta e del vice premier Alfano. Sono un ministro in carica che non ha fatto nulla, che oggi in Parlamento ha difeso la propria dignità e onorabilità rispetto alle accuse, al linciaggio mediatico, al complotto di cui sono vittima. C'è un grande dirigente italiano. No, ma sai cosa c'è da dire su questo? Dimmi, forse dimmi. Tu non sarei d'accordo. Dimmi. Lei è meno potente della cancelliere. Beh, certo, cioè, su questo non c'è dubbio. Questo è il dato di partenza. La cancelliere fa una telefonata al ministro della giustizia, a una famiglia che ha ricevuto da poco arresti, eccetera, eccetera. Il ministro della giustizia, uno latitante, lei ministro della giustizia. Non indagata. Critica l'inchiesta, mentre uno è latitante, un altro esatto, è galera, la De Girolamo non indagata. La De Girolamo non indagata, che forse ha usato qualche linguaggio di troppo, se l'è presa nel sottocoda invece, perché la signora De Girolamo... Perché Letta ha difeso in maniera così forte la cancellieri, questo dicendo in Parlamento, dicendo anche che parlando di buona fede, e invece... No, tutti l'hanno difesa, tutti alla fine l'hanno difesa, vabbè, anche il Partito Democratico. Però sto parlando di Letta, difesa. Letta, il Presidente del Consiglio, ha difeso a spada tratta la cancelliera. Cancellieri e non la De Girolamo, diciamo la verità. Questa è la sostanza. Non ha detto una parola sulla De Girolamo. Per molto, molto meno si è salvato il ministro cancellieri. Per molto, molto meno. TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Le condizioni di Renzi sulla riforma del voto, se non passa la legislatura al capolinea, presentate oltre 300 emendamenti al testo base. Letta, l'Italia più forte con la nuova legge elettorale, se passa è un bene per il paese e per il governo, muro di Forza Italia sulle preferenze. Scajola assolto per la casa al Colosseo, disse che era stata acquistata a sua insaputa, l'amarezza dell'ex ministro per la campagna d'accuse. Nel giorno della memoria la condanna di Napolitano per gli atti contro gli ebrei, miserabili provocazioni, mai abbassare la guardia contro il razzismo. Banca Italia con la crisi, ricchi sempre più ricchi, poveri sempre più poveri, al 10% degli italiani metà della ricchezza del paese. La legge sulla procreazione assistita torna alla consulta sotto esame il divieto di diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di malattie genetiche. Kiev, dopo averlo occupato nella notte, i dimostranti sgomberano il Ministero della Giustizia ma minacciano di rientrare nell'edificio se le loro richieste non saranno ascoltate. La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo. Beh, è tornato finalmente, ma l'abbiamo già mandato in onda, l'abbiamo già sentito, abbiamo altre perle oggi, eh? È tornato Bendola, cosa stai dicendo, ma che stai a dire? In collaborazione, devo dire, con una fortunata rubrica del Foglio Quotidiano. Allora, aspettate. La prima è questa, sentite, quello era un finto Vendola, era Zalone quello che avete sentito nella sigla. Sentite il vero, e ditemi se avete capito qualcosa. Pensate le lezioni di critica della tolleranza della scuola di Francoforte, di Herbert Marcuse, l'idea di Pierpaolo Pasolini di quanto la tolleranza fosse quasi un limite borghese alle possibilità di espansione del pensiero, di mettere insieme l'umanità, no? Perché in fondo parliamo di un'umanità scissa, frantumata, ferita e di tutto ciò che è stato costruito culturalmente e socialmente per tenere in piedi le barriere. Sì. Capito? Beh, però è un piacere. Ma quale piacere? È una rottura di coglioni perché pazzesca. Dai, su. Questo linguaggio immaginifico stupendo. Senti, in cui sì, dice che all'epoca, quando Pasolini faceva delle battaglie culturali, su, ad esempio, senti sull'omosessualità, senti quest'altra erano... cosa. Senti. Vedete, Carlo Marx, prima di scrivere Il Capitale, scrive l'ideologia tedesca, perché il capitale del capitale è la sua ideologia, cioè il capitale fondamentale che hanno i nostri avversari è quei codici culturali che manipolano per farci credere che questo mondo è un mondo naturale, non è un mondo storicamente determinato, è un mondo quindi immutabile, no? Questo è... Ma che che se poi gli applausi, non capisco, gli applausi dietro. Cioè lui dice che il capitale, la mentalità di oggi è quella di abolire il concetto di lotta di classe, perché ormai è così, perché ormai il mercato ha vinto, questo lui dice. Giampaolo da Verona, Giampaolo, vuoi difendere l'indifendibile, non si capisce niente, dai. No, ma ha ragione. È roba da cattedra all'università, non da politica. No, dice che l'ideologia dominante prevede lo sfruttamento. Non si capisce, la gente non lo capisce, Giampaolo da Verona, dai. Pronto? Vai. Ciao, buonasera a tutti. Niente, io voglio fare una considerazione con il signor Palenzo. Eccomi, Giampaolo. Perché non parli di Mastro Pasqua oggi? Non ti preoccupare, che abbiamo pronte delle cose su Mastro Pasqua. Certo, ma io parlo con Parenzo. Ma che c'entra Parenzo? Mica l'ha mai difeso Mastro Pasqua. Ma io ho mai difeso Mastro Pasqua. Però non ne parla, forse stato. Senti, amico mio, il problema di Mastro Pasqua è molto semplice. Oggi molti grandi giornali si affannano a dire che 25 incarichi sono troppi, ma semplicemente perché c'è un'inchiesta su cui invece noi siamo ipergarantisti. C'è un'inchiesta. Ipergarantisti, no, siamo ipergarantisti, non ce ne frega niente a noi dell'inchiesta. Il punto è che Mastro Pasqua ha troppi incarichi. Se uno deve fare il presidente dell'INPS, nessuno deve fare solo il presidente. No, a parte che non è vero, perché Gianluigi Paragone con il quotidiano 2 anni fa. No, Gianluigi Paragone con prima con l'ultima parola Paragone, e adesso. Ho capito. Mastro Pasqua è un re che può manipolare tutto, non c'è un consiglio di amministrazione, non c'è nessuno che controlli lui può decidere. No, ma è tutto, tutto trasparente, nessuno... non è che non sia trasparente, non il problema è che ha 25 incarichi, 24, 25, sì, quello che a parte è. A 24 che sono troppi, che questo è ovvio. Senta, però quando dice guadagno tanto per poter dire dei no, sentiamolo, a parte che viene rincorso ogni volta dalle telecamere della gabbia, eccetera. Mastro Pasqua, guadagno tanto per poter dire dei no. Beh, io lavoro tanto, non lo nego, guadagno tanto, i miei dati sono pubblici e pago tutte le tasse. E sacrifico famiglia, figlio e la mia persona per un semplice motivo. Che posso... Per poter dire dei no, aggiunge, però il problema fondamentale è che nessuno gliel'ha chiesto. Cioè, va benissimo tutto, però gli stipendi degli alti funzionari statali in Italia sono esorbitanti. Cioè non è possibile 1.200.000 euro di incarichi pubblici, lui non gettoni dei consigli no. di amministrazione. Lui non dice no. Uno ai che deve incarichi, fare, uno che fa il presidente dell'INPS, lo dico con grande affetto anche perché lo conosco. Uno che fa il presidente dell'INPS deve fare solo il presidente dell'INPS. Punto. Basta, non c'è, perché il presidente dell'INPS è già una cosa gravosa. No, è già magari una cosa qualche importante. No potrebbe dirlo quando gli offrono un consiglio di amministrazione. Lui dice guadagno tanto per poter dire dei no, e questo potrebbe anche avere un senso, ma dovrebbe dire dei no anche quando gli propongono consigli di amministrazione in più. Qualche no in più tanto potrebbe dirlo. Più che quella zanza nella stanza più non ronza. Sbiriguda, supercazzola prematurata? No, dico prematurata la supercazzola. Non capisco. Con scappellamento a destra. Ah, le appelle. E le sono là, guardi, a destra, là. Beh, ragazzi, i nostri prodi parlamentari si sono recati una decina circa in India per cercare di risolvere la situazione dei Marò. È inutile dire che questa missione sarà risolutiva, sicuramente riporteranno i Marò a casa. Dai, su. Questo non credo. Ma tu ti rendi conto, una missione parlamentare per andare a incontrare i Marò a spese nostre? Guarda, nostre, io ho ovviamente difeso la missione parlamentare. Dai, però su, questi qui non è che fanno il viaggetto, dormono al Palace a New Delhi e poi tra 2 giorni ritornano. Dovrebbero rimanere lì, mettersi, incatenarsi davanti alla prigione dove sono rinchiusi Massimiliano e Salvatore, stare lì fino a quando non ce li ridanno. No, che ce ne facciamo di Cicchito in Italia? Meglio Cicchito in India e l'altro, come si chiama quello della Lega? Signor Pini, chi è che è nato lì? Sì. Signor Pini della che Lega. Si incatenassero. Anziché star qui a parlare di Rom, di immigrazione, in India, lì. In India, con vabbè, una tenda, tu esageri, con solito una tenda, in India, davanti alla carcere, così con una tenda, sapete, delegazione italiana del Parlamento. Ma senti le frasi con roboanti. I sacchi a pelo, con le mucche che passano aspetta, ogni tanto, aspetta, perché in India le mucche passano per la senti strada. Le frasi roboanti. Cicchito, ci hanno ringraziato per l'unità. Ma è quale unità? Loro ci hanno ringraziato perché una iniziativa non di singoli gruppi parlamentari, ma della Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato Unite. Sono meno di qua e quindi di questa espressione di solidarietà. La Torre, Partito Democratico, la delegazione ci mostra l'affetto degli italiani, però veramente non è che gli italiani volessero questa roba qui, eh? Non è che volevano che voi andavate in India, no? Non mi pare. E poi resta sempre la prima idea di La Russa, candidare i Marò. Noi possiamo uscire dalle missioni internazionali e in estrema ratio, se tutto ciò risultasse ancora una volta inutile, abbiamo valutato la possibilità e la stiamo valutando di candidarli alle elezioni europee per costringere l'Europa a quel punto. Vabbè, vedremo come va a finire, eh? 800 24 00 24, Aurelio da Taranto. Anzi, aspettiamo un attimo, devo farti sentire una cosa clamorosa. Una cosa clamorosa. Qui abbiamo, caro Parenzo, due personaggi. Antonio Razzi, senatore, e il senatore a vita Piano. Tu mi direi: sono fissato, l'ho sì, già ho detto, visto, ho visto che, Razzi, che Razzi è meglio di Piano. Vabbè, lo ribadisco, ma non è questo l'importante. Ma la pensano allo stesso modo. Cioè, pensano che il Senato debba essere conservato. Bene. Cioè, Piano e Razzi la pensano uguale. Piano dice: è strano abolire il Senato che abbiamo inventato. E che vuol dire? Non è che tutto quello che uno inventa va bene, caro Piano, eh? Favorevole all'abolizione del Senato? Sono favorevole che si faccia la cosa giusta per il Paese. Io non ho cercato questa posizione, me l'hanno offerta e io ne sono molto fiero. Devo dire che mi sembrerebbe un po' strano che fosse abolito, perché il Senato l'abbiamo inventato noi, è Roma che ha inventato il Senato. Ma che vuol dire? Scusa, a Roma ha inventato il Senato? A Roma c'erano anche no, il Colosseo con i leoni che sbranavano la gente. Sì, sì, cioè sì. Non è che Roma ha inventato il Senato, ha inventato anche altre cose e poi si sono superate queste cose, caro Piano. Dai, su. Questo Piano e Razzi la pensano allo stesso modo. Il Senato ormai esiste dai tempi dei Romani, che sì, la storia, almeno il Senato sono i veri saggi della politica, e penso che ci può essere, come prima diceva lei, una riduzione sia alla Camera che al Senato. Sembra incredibile, ma è così, entrambi citano i Romani. I veri saggi. Ma non ti rendi conto o no? Ma ti rendi conto o no? Senatus populusque. Chi era qua? Chi era qua? Invece di dire cazzate incomprensibili, parla bene. Aurelio da Taranto, dai. Aurelio? Buonasera, pronto? Dimmi. Allora, ascoltami. Ancora ci sono italiani che credono ancora nella politica. Vabbè. Quando non hanno capito. Che vuoi fare? Li vuoi ammazzare? I politici si stanno mangiando l'Italia pezzo per pezzo. Vabbè, ma questa è un'esagerazione, dai, su. È un'esagerazione? Sì. No, aspetta un altro poco e vedi cosa succede, peggio della Grecia. Sì, perché vabbè. Noi siamo arrivati, ancora noi, ancora nessun italiano l'ha capito, perché ancora crede nella politica, perché questi sono dei porci. Allora, ma chi è porco? Chi? Tutti, sono tutti l'Italia, dei porci. Tutti i dei porci. Cinesi, ascoltami, i cinesi e i politici banchettano bene, ne stanno i cinesi, pure i cinesi, che c'entrano i cinesi? E noi stiamo morendo, le aziende hanno chiuso. Questo è un governo di far chiudere le aziende, questo è il concetto. Vabbè, ma il governo gli italiani per... ancora sono dei coglioni, sì, che credono ai politici. E invece cosa dovremmo chiedere? Qual è la sua proposta? La dittatura? La proposta mia, sai qual è? La dittatura. Se vogliono bella... fare i politici a 1500 euro al mese, sì, e se sbagliano pagano fino alla 70ª generazione. Sì. E vedi come cambierebbe tutto. Va bene. Franco dalla provincia di Agrigento. Nuova questa provocazione. Franco. Pronto? Dimmi. Posso parlare? Sì, vai. Povera Italia, che classe politica di merda. Eccolo qua. Senta, ecco, io volevo qua dire che in questi giorni Berlusconi festeggia il ventennale della sua discesa in campo. Su questo non c'è ora, dubbio. Ora, mi ricordo che i comunisti lo volevano mandare a chiedere l'elemosina. Beh, adesso mentre non esageriamo. Mi pare che è successo proprio il contrario. Cioè? I comunisti sono scomparsi. Sì. E Berlusconi è ancora lì. Dunque lei votrà? Per non votare i comunisti, votano per Berlusconi, votano per Grillo. Perché i comunisti sono il male assoluto. Sì, ma no. L'ipocrisia assoluta. Ma perché il PD sono scomparsi? Ma il PD sono comunisti, secondo lei? Ora, se i comunisti sono. Renzi sono è comunista. Dei comunisti sono dei comunisti camuffati di chissà da che cazzo, da quel cazzo che gli conviene in quel momento. Sì. Ora, io volevo dire una cosa. E Renzi non le piace, italiano. Renzi non le piace. No, comunista. Renzi è falso, è un fasullo, guardi. Sì. Renzi è falso. non si capisce bene che cazzo è. Anzi, si capisce benissimo, non è niente. Non è niente, vabbè. No, e non è... Comunque, se comunque, sì. Io volevo dire una cosa, se per esempio gli italiani, sì, in un sussulto di dignità o di istinto di sopravvivenza, decidessero per esempio di impugnare le armi, eccolo, e di farlo fuori sti bastardi, di cacciarli via come hanno cacciato via tutti i rivoluzionari del mondo e i loro governi, ecco, ma sarebbe bene considerata... Beh, lotta di liberazione o terrorismo? Ma che ne so, Alberto, è un quesito. Ne hanno fatte tante. Va bene, Alberto da Napoli. Ciao, Alberto. Buonasera, sono Alberto. Dimmi, volevo dimmi. Solo, volevo ricordare a Parenzo che Paiola è stato assolto. Sì, in primo grado, certo. Probabilmente dovrebbe, certo, rivolgere delle scuse, visto che sei stato un anno... comunque a... Io all'epoca, guardi, che non ero appeso, non sono mai stato appeso alla sentenza della magistratura. Ma io oggi sono contento per Scaiola che sia stato assolto in primo grado. L'hai massacrato, caro Alberto, riascoltati le registrazioni. L'ho massacrato sulla questione politica, Alberto. Tu dovresti la mattina... Ma che c'entra la questione politica in questo caso? È stato assolto, punto e basta. La questione politica della magistratura... Io non so, la questione giudiziaria... No, Alberto, la questione, sì, giudiziaria è un conto, poi c'è la questione politica, perché non sempre le due cose coincidono. In questo caso coincidevano. Un conto è la questione politica, un conto è la questione giudiziaria. Rimane il fatto che lui, cosa, è stato assolto in primo grado. Io ovviamente sono contento dal punto di vista politico. Dal punto di vista politico, ha da un punto di vista politico, ha spiegato quanto ha pagato alla fine quella casa? Ma cosa vuol dire? Ma è tutto legittimo. Quello che gli hanno contestato i magistrati non esiste. Quello che gli hanno contestato i magistrati, secondo i magistrati, non c'è. Quel capo di imputazione visto dal PM non esiste. Lì, ma è tutto lì, non c'è poi altro. Poi dopo c'è la questione politica. Ma non c'è niente da distinguere, niente. Si coincidono. Questione politica e questione giudiziaria, assolutamente. Sono, è vero che lui si è dimesso a seguito dell'inchiesta, certo, questo è vero. Va bene, Roberto da Vibo Valentia. Valentia. Buonasera. Dimmi, Roberto. Buonasera. In merito ai, diciamo così, ai dirigenti pubblici che in questo momento fanno anche i viceministri dello sviluppo economico, parlo di Catricalà, calabrese, che quando viene intervistato anche dalle vostre, dalla vostra emittente, splendido Minoli sull'auto blu eccetera, 252.000 euro per far parte del Consiglio di Stato da 10 anni, se ne è interessata anche Report, senza mai far parte, perché per 6-7 anni, non so quanti, ha fatto il presidente a 430.000 euro all'anno dell'antitrust, e infatti noi con il petrolio, con le assicurazioni, con le banche... Siamo un paese libero. Siamo un paese libero e indipendente, e non solo, La moglie, ultima recente scoperta, fa parte di quei 10-15 dirigenti dello Stato italiano che ha aumentato del 30%, circa 180.000 euro all'anno, lo stipendio. Ora, lasciamo stare la moglie. Ma Roberto, ma lei ha perfettamente ragione, cioè gli stipendi degli alti dirigenti dello Stato sono uno scandalo pazzesco. C'è il professor Perotti che di recente ha proposto una diminuzione drastica, proprio per decreto legge, del 20-30% di questi stipendi, subito, per risparmiare, subito, via. 20-30% sarebbe cosa poca, nel senso che il problema è un altro. Intervistato sulla vostra emittente cosa farebbe dei 10-15 miliardi derivanti dalla privatizzazione, il dottor Catricalà, che si definisce calabrese, calabrese sono io, sto, vabbè, arrivando, allora, a dire, no, mi perdoni, sto arrivando a dire che esprimiamo l'andrangheta e Catricalà, noi è arrivato a dire serviranno per ridurre il debito pubblico. Ora il debito pubblico sei tu, Catricalà, cioè tu incarni l'inutilità della tua funzione, sì, sì, la forza del boiardo e il fatto che il paese come il nostro non andrà mai da nessuna parte, perché se tu sei presidente dell'antitrust e non rinunci ai 252.000 euro del Consiglio di Stato, bravo, bravo, e prendi, certo, 430.000 euro, guarda, e il se mitico... vai da un distributore, sì, un'assicurazione, una banca, tutto è esattamente messo con un cartello. Io voglio dire a quegli italiani che stanno avendo come me difficoltà e avranno difficoltà di andare, i famosi forconi, non a Palazzo Chigi, andare a mangiare, a dormire a casa di Catricalà, che non usa la macchina sua per fare i 3 chilometri fino al ministero, intervistato dal suo, sì, collega, sì, Minoli, perché non trova parcheggio. Ma possiamo ancora parlare della casa di Scajola e non andare con certo. i forconi a beh, casa di Catrice. Ma i forconi mi sembra un po' troppo. L'espressione della Calabria che noi esprimiamo, mi scusi se mi altero, ma esprimiamo l'Andrangheta ed esprimiamo Catricalà. Va bene, adesso lei ha accostato l'Andrangheta a Catricalà, mi sembra eccessivo. Il problema è generale, al di là del caso Catricalà, gli alti funzionari pubblici in Italia guadagnano troppi soldi. Io sono per quella proposta che fa sì che siano diminuiti subito. Si può fare, non si può fare, non mi interessa, ma perché in una situazione di crisi alcune cose non si possono fare per i famosi diritti acquisiti? C'è il mitico Luttua che l'altro giorno proponeva il fatto che in Italia devono essere licenziati 500.000 dipendenti pubblici, così 500.000, e ha ragione, 500.000 dipendenti pubblici da licenziare subito. Chi ce l'hanno con me, non sono mica una mosca zenzè, una povera zanzara sempre fedele alla sua natura. Comunque ragazzi, in Svizzera ne sanno sempre una più di noi, eh. Si sono inventati i famosi bordelli elvetici, la trombolata. Cioè, alcuni locali a luci rosse in Canton Ticino. Ti interessa vedere hanno proposto una lotteria. Si sceglie un numero, se estratto si vince mezz'ora di sesso con una ragazza. Lei deve essere accettata. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, mi chiamo Giovanni. Non ho capito, scusi. Sono un vostro cliente, mi chiamo Giovanni. Sì. Salve, io sono venuto qualche sera fa quando avete fatto quelle serate lotteria, no? Sì. Che mi sono piaciute moltissimo, mi sono divertito come un pazzo. La cosa che volevo sapere, quando è che rifate questa cosa qui? Non lo so. È possibile saperlo? Pronto? Sì, ma chi è un cliente lei? Eh sì, sono un cliente, l'Oceano, no? Sì, no, sono venuto con degli amici qualche tempo fa, a gennaio comunque. Di solito si fa a Capodanno. Sì, ma a gennaio adesso sì, sotto Capodanno era. E... Sì, era a Capodanno, ma si fa solo a Capodanno. Beh, forse allora non era l'Oceano. Può essere sì che era un altro posto. Era un altro posto, ma voi non lo rifate più? A Capodanno lo facciamo. Solo a Capodanno? Solo a Capodanno, no, perché ho letto oggi su un giornale che ci sono state un sacco di critiche a questa cosa, che può darsi che non fate più le cose, questo mi dispiacerebbe. Non lo so. Non lo sa, eh? No. Vabbè, grazie, peccato. Prego. Grazie. Vai via. Chi ce l'hanno con me, non so. Cioè, capito, non le fanno più queste robe qui, perché questi sono problemi. Alcuni partiti, ma sono problemi serissimi. Un'interrogazione parlamentare. Ma io non capisco, uno non può organizzare in alcuni locali luce rossa in Svizzera, in Canton Ticino, una specie di lotteria. Si sceglie un numero, se tu sei estratto vinci mezz'ora di sesso con una delle prostitute del posto. Qual è il problema? Ci sono dei partiti che dicono la mercificazione del corpo. È legale la prostituzione. Qual è il problema se fai un gioco in cui le persone sono consenzienti? Vinci una lotteria, non è che vinci una persona così che poi è costretta a fare quelle cose, dai. E che cos'è? Che è un bel ambiente. No. Ambiente di maiali. Su questo Taormina, devo dire. Ma che maiali? È un ambiente normale. No, che... ma dà un suo giudizio morale, diciamo, sulla cosa. Ma quando penso alla pelle umana. Alberto da Verona, buonasera. Buonasera, Cruciani Parenzo. Dica. Sì, telefonavo per i fattacci delle autostrade lì. Sì. Siccome io giro molto. Quali fattacci, scusa? Ah, i gay che vanno dietro. Ma volevo dire una cosa, quel Tiziano Crudeli lì, fateli fare il TSO perché è una cosa indecente da ascoltare. È indecente. Il TSO è da farlo. Beh, a parte le lasciamo perdere. Sì, io viaggio molto in Europa, quello che succede in Italia non succede in nessuna parte d'Europa. Cioè, in che senso, scusi? Quello che avete parlato la settimana scorsa, i camionisti che vengono abbordati, affiancati, eccetera. Ma lei è camionista, scusi? È camionista lei? No, io viaggio con la macchina. E allora, anche lei viene abbordato, non ho capito. No, io ho avuto solo un abbordaggio sulla statale in Alto Adige con... Lui diceva di essere l'autista, invece per me era la moglie, mi ha detto che voleva far sesso con me, io ho detto andiamo in albergo, dice la signora non ne può più, e l'ho fatta subito sul Jaguar di lei e lui è salito sulla mia macchina. No, non ho capito, scusi. 25 anni fa questo. Ah, 25 anni fa, sì. Vabbè. Però io giro l'Europa moltissimo, e quello che succede in Italia non c'è da, in Germania ti arrestano subito, in Germania. Cioè se cerchi di avvicinare qualcuno. Ma non esiste una roba del genere. Qui è la postrada dell'Italia che deve controllare e fermare questa gente. È una schifezza veramente tutta italiana questa qui. Bisogna fare qualcosa. Faccia fare un servizio a Parenzo. E non ci vuole andare, che ti devo dire? E non ci vuole andare, perché cosa ha paura di che? Non gli fanno niente. Ma che? No, ma mica perché mi fanno, ma io non ho mica paura di questo. Cioè, mi pare. Non viene sodomizzato, non gli fanno niente. Ma io non mica ho paura. Ma infatti, ma ha paura forse di questo. Tutto. È un giornalista, fa e non ci vuole andare. Ma non mi pare proprio una grande inchiesta questa roba. Vai sui camion, vai sui camion, dai. Giovanni. È una bella inchiesta perché ci sta sputtanando in tutta Europa, sto fatto qua. Parlano solo di questo in Europa, effettivamente. No, no, non è che parlano. Parlano di tante altre cose, ma parlano anche di queste cose qui. Sì. Che succede solo in Italia, nelle autostrade italiane, una schifezza del genere. Oltre a essere pericoloso, anche per porta dei rischi. Ma a me non mi pare un problema gravissimo. Problemi di incidenti, può succedere. Va bene, Giovanni da Monza, buonasera. Giovanni? Giovanni? Giorgio da Vicenza. Sì, ciao Giorgio. Ciao, dimmi. Buonasera vecchi volpi, una cosa velocissima sulla Di Girolamo che ho sentito che si è dimessa oggi. Una mia semplice considerazione, secondo me è il buon Silvio che ha già messo le mani avanti e ha cominciato a fare la campagna acquisti. Ma insomma, pare che non sia così, perché il ritorno a Forza Italia è più complicato di quello che uno può prevedere. O di quello che uno può immaginare, pare che la Pascale sia contrarissima. Il gruzzoletto di voti però porta con sé, e quello è sempre il gruzzoletto di voti, la De Girolamo, comunque. Ma non credo proprio, guardi, bisogna sempre andare poi a vedere. Dire un'altra cosa su sempre con le liste bloccate è stata poi eletta la De Girolamo, sempre con le liste bloccate, per cui gruzzoletto di voti bisogna vedere, dai. Si è fatta conoscere sul territorio probabilmente. Vabbè, allora? Ecco, niente, solamente secondo me questo è il scopo delle dimissioni, si è offerto in piatto d'argento. Vedremo nei prossimi giorni se Berlusconi la riacquista. Salvatore da Napoli. Buonasera. Volevo dire parlare a proposito dei Marò che sono andati lì, no? Come si fa, la Russia si deve vergognare perché questo problema l'ha portato la Russia. La Russia è stato il primo che ha fermato, io vado a mare, conosco il mare, vivo di pesca, e so questo. Il problema è che hanno praticamente ammesso la Marina Militare, signor Cruciani, a servizio dei privati, come delle guardie giurate, quelle che vengono a mettere... Ma questo qua è normale, la Marina Militare ogni tanto fa dei servizi anche per i privati, non mi sembra uno scandalo. E ditemi una cosa, chi lo prende il comando su una nave? Il comandante. Ma ci sono delle regole, il problema là è stato che è successo in acque internazionali, poi il comandante della nave ha praticamente consegnato comunque la nave. E lì allora va subito sequestrata la patente. Ma è roba vecchia ormai, non è più quello il punto. Ma ditemi una cosa, signor Cruciani, come mai state facendo Radio Radicale da un po' di tempo? In che senso, scusi, Radio Radicale? Essendo che fate parlare a tutti quanti, nel senso proprio a ruota libera, no? Libera, ma che dice? E come no, mi sembra che diciamo che la mistress questa della radio, no, a favore di Parenzo, pare che Parenzo gli piace che viene offeso. Mi dà questa sensazione qui. Ah, lei dice radio parolaccia, questo dice. Quella che fecero i radicali degli anni. Ma no, forse un po' gode quando viene offeso. Parenzo sembra che gli vuole. A me, per esempio, sinceramente, quando lo attaccano sull'ebraismo, sta gendaglia mi dà fastidio. Bravo, ma sembra che a lui, no? Bravo. Pare che gli piace. Ma io pure di mandarli a quel paese, che devo fare? Oggi dovremmo chiamare Saia, secondo me. Oggi una buona giornata giusta. Guardate, signor Cruciani, ritornando alla questione dei Marò, no? I Marò devono essere condannati in Italia. Cioè, nel senso, giudicati in Italia, perché il caso dei Marò è come il caso Spacca Rotella. Comunque lo sai che a me, devo dire la verità, adesso farò una cosa contro tendenza. A me di questa vicenda qua, devo dirvi la verità, non me ne può fregare di meno. Perché? Che ne so, non mi appassiona questa vicenda dei Marò. Non è questione di appassionare, non so perché, è questione, secondo me andavano presi tra quelli che ritiene che devono tornare in Italia. Ma no, o no, è una vicenda talmente complicata dal punto di vista giuridico internazionale, che davvero questa, ma non lo dico per in odio ai Marò, non me ne frega niente, figuriamo, non me ne può fregare di meno, non lo so, non mi appassiona. Quelli che ci speculano politicamente mi danno fastidio, un fastidio enorme, quelli che ci speculano politicamente. Dopodiché, se dovevamo fare qualcosa, dovevamo farlo subito, andandoceli a prendere con la forza militare. Beh, siccome sono non l'abbiamo fatto, operazioni che non facciamo noi. Purtroppo non facciamo. Se dovevamo fare un'operazione era quella, quando c'era casino con l'India, a parte che gliel' abbiamo restituiti a un certo punto che erano tornati qua in Italia, vergognosa. Quello è la questione, quello è il punto. Un attimo. Questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Non me moleste moschito. Tu fai un bel varietà, però da 20 anni c'è gente che va in giro a dire cazzate e questa trasmissione sta perpetrando la tradizione. Why don't you go? No me moleste mosquito. They made my burrito. Sei ancora a casa? No me moleste mosquito. Why don't you go home? Ma ti pare normale, scusa, ti pare normale che le due figlie della Chieng non hanno voluto stringere la mano a Salvini? Sì. Alle invasioni barbariche? Perché? Sì. Perché? Assolutamente sì. Perché? Assolutamente sì, perché sì, bellissima è stata l'iniziativa della Bignardi di invitare le due figlie per far vedere la famiglia del ministro più contestato allora, d'Italia solo perché è di colore. È più che le hanno sparato addosso alla famiglia di queste persone, di tutto gli hanno sparato. Ma non hanno detto niente sulla famiglia. Infamità, orango, barzellette, citata in tutti i comizi. Le due figlie, bellissime peraltro, che non so se le hai viste, veramente belle, eleganti, allora? Garbate, con un trucco leggelle, proprio belle erano, belle. Non ho capito, nero non è per capisco. Forza bello per te. Comunque, come? Vabbè. Nero ma a parte è per che forza erano, bello. A parte che allora? Hai sbagliato che non erano proprio nero, erano mulatte, insomma, di una allora? Belle, veramente belle, italiane, stupende proprio. Hanno fatto benissimo perché offese per mesi dai leghisti, non si capisce in base a quale motivo di pure dare la mano, non si capisce perché. Dice uno ti dice di tutto di tua madre che è un ministro e tu gli devi dare la mano, non si capisce per quale educazione, per quale bon ton. Scusa, che c'entra? Non ho questi capito qui che hanno c'è. Usato l'educazione del bon ton. Ma scusa, se offendono tua madre che è un personaggio pubblico, il tuo non è il tuo Cruciani personaggio pubblico, offendono tua madre mettiamo, no? E tu ti trovi in un contesto come quello, ti chiedo gli daresti la mano, dice no, ma io se mai, anzi mi volto dall'altra parte. Io mi volto dall'altra parte. E sono stati comunque, fin troppo educati. Ti faccio lo scherzetto e chiamo Saia, oggi. Ma mando, io non gli parlo a Saia. Nel giorno oggi. Della memoria ti chiamo io Saia. Io infatti non parlo a Saia oggi, non gli parlo. Perché non parli? Non gli parlo, mando quel perché non parli a Saia? Perché è un povero imbecille. Salvini. Io. Non è nulla di rappresenta niente. I centri per gli immigrati non sono peggio del trattamento che c'era in alcune caserme per la leva, senti. Posso garantire, e a casa chi ha fatto il servizio militare se lo ricorderà, che da italiano, integrato, milanese, europeo, facevamo docce ed eravamo disinfettati in maniera molto più problematica di questo, senza che nessuno all'aperto. Avesse secondo da tirare in ballo i lager così? Nazisti. Ma secondo lei è una cosa giusta? Beh, non ha tutti i torti però, signor Salvini, sono condizioni diverse, quella era la leva, gli altri venivano vengono dal Mediterraneo, ma non ha tutti i torti, cioè il trattamento... Come si fa a paragonare chi fa Naia? Ma cosa dici? Ma non c'è nulla da giustificare, ha detto una sciocchezza il nostro amico Salvini, no. Si fa a giustificare un giovane italiano che fa la Naia e viene dalle sua dalla bella casetta vicino a Milalì, in periferia di Milano, allora? E va a fare la Naia con questi qui che hanno attraversato il mare per venire qui? Parla del trattamento. Ma cosa vuol dire? Ma quale trattamento? Perché ti buttavano una pompa addosso alla Naia? Ma come mi no? Succede. Ma no, come sì, no? Per farsi gli scherzi tra di loro, come avviene nel nonnismo delle caserme. Succede. Ma per il nonnismo delle caserme, che infatti dovrebbe essere condannato, certo, nel nonnismo avviene. Massimo da Roma. Aspetta. Dai, parla con Saia. No, io non parlo con quel coglione. Non ci parlo mai, in particolare oggi, non gli do neanche il diritto. È una vita che non lo chiamiamo, dai, proprio. Ma meno male. 9, 3, 4, no, ma non 4, risponde poi. 6. Massimo da Roma, Massimo. Poveretto. Mi hanno staccato pure. Dimmi, Massimo. Ti volevo fare un augurio. Sì, dimmi. Allora, io spero che tu domani vada in un ufficio postale a pagare un bollettino. Sì, ci vado sempre. Però siccome hanno licenziato 500.000 dipendenti pubblici, non ci trovi nessuno. Sì. Dopodiché esci e ti hanno parcheggiato in doppia fila, però hanno licenziato tutti i vigili. Sì. Purtroppo ti arrabbi molto e ti devono portare in ospedale, hanno licenziato tutti i medici. 500.000, ha ragione Luttwak nella sua provocazione, esatto. Ha ragione, 500.000 a casa. Ti auguro tutto questo. No, ma io me lo auguro anch'io, grazie, me lo auguro. Ma te lo ovviamente auguro è una provocazione, perché... ovviamente è una provocazione da parte di Luttwak, che non si possono licenziare dall'oggi al domani 500.000, no? È evidente. Ha ragione. Allora noi abbiamo un provocatore e poi abbiamo qualcuno che forse non è un provocatore, sì, che dice pure che ha ragione. E io spero che questo qualcuno abbia bisogno di quei dipendenti pubblici che sono stati licenziati, compresi i vigili del fuoco. Lei, Massimo, è un dipendente pubblico? No. Aspetti un attimo. Comunque Massimo in questa cosa qui ha ragione, non si può buttarla tutta in bacca così. Chi è questo? Tuo amico, non ti preoccupare. Ma non gli sei il coglione, non gli parlo, eh? 3, 9, 3. Va bene, Massimo, allora? Allora, sulla storia invece dei Marò, che erano in acque internazionali, Io le vorrei chiedere, ma se uno spara in acque internazionali da una nave italiana e ammazza uno su una nave indiana, l'omicidio dove è avvenuto? Ma che ne so, in acque internazionali. Ma siamo sicuri che l'omicidio è avvenuto sulla nave italiana e non su quella indiana? Vabbè, adesso non possiamo stare qui a ricostruire quello che è successo, dai, su. Io no, no, non ricostruiamo, noi abbiamo una massa di italiani che sono stati indottrinati a dire che essendo in acque internazionali l'omicidio è avvenuto sul territorio italiano. Sempre, non è vero, l'esplosione è avvenuta sul territorio italiano, se non moriva nessuno non era un omicidio, l'omicidio è avvenuto su una nave indiana. Comunque, la frase di Lutwak è questa: il governo italiano può fare quello che ha fatto quello britannico, ridurre cioè la spesa pubblica. In Inghilterra hanno licenziato 500.000 dipendenti pubblici, in Italia se ne possono licenziare 750.000 e poi ridurre le tasse. Beh, stupendo. Dopo qualche mese, anziché avere 750.000 disoccupati in più, ci sarebbe 1 milione di disoccupati in meno. Vabbè, queste sono le teorie di Lutwak. Le teorie di Lutwak. Dove andiamo? Dove andiamo? Francesco, provincia di Pesaro. Francesco? Buonasera. Dai, andiamo. Buonasera, intanto visto che la giornata è alla memoria volevo fare un appello a tutti gli ebrei moderati. Gli ebrei perché moderati, che vuol dire ebrei moderati? Non significa nulla, ma parli come mangi, vuol dire gli ebrei moderati? Mi faccia finire, gli ebrei moderati che aiutano un po' l'umanità contro il sionismo, cioè non gli aschenazzi. Senta, mi renda comprensibile queste frasi, per favore, mi renda comprensibile allora, queste frasi. Allora, lei dovrebbe sapere che ci sono tantissimi ebrei, sì, persone splendide, che purtroppo vengono inquisiti e soffrono da decenni sotto il gioco dei sionisti. Non sta bene. Questa è una cosa che dovrebbe sapere. Senta, Francesco, a me di questa storia non me ne può fregare di meno, e passo a Giovanni da Monza. Arrivederci. Lei parla di libertà in uno Stato che non ha sovranità nazionale. Vabbè, Giovanni da Monza, arrivederci. Giovanni da Monza. Salve Cruciani, buonasera. Dimmi. Senta, io parlo come diciamo, so che a lei non importa niente dei Marò, però siccome ne va di mezzo il nome dell'Italia e noi imprenditori abbiamo un sacco di affari in India, è importante uscirne a testa alta. E allora? Per cui io sono d'accordo con Parenzo questa volta, per cui un'azione di forza anche a livello di incatenamento e varie. Ma quale incatenamento? Ma basta con queste missioni. Ma rimanere lì? Cruciani, rimanere ascolti lì fino a quando non ce le ridanno, cioè questo serve la missione, certo, parlamentare, anziché incontrare l'ambasciatore italiano, fare, esatto, un ricevimento, che ne so, sono andati lì. Ma sai lì che gliene frega gli indiani, è la commissione esteri, okay, no, invece lì, è la commissione esteri tutta del Senato, dove c'è maggioranza e opposizione, ci sono i partiti di tutto il Parlamento, perché c'è anche il 5 Stelle che è andato lì. No, sì, ma c'è di più. E allora rimangano lì fino a quando non ci ridanno i Marò. C'è di più, gli indiani sono un paese, io li conosco bene perché ci vado praticamente 4 volte l'anno, quindi sono un paese molto formale dove è importante fare dimostrazioni di forza. Se noi stiamo lì passivamente e pensiamo con la legge di risolvere il problema, facciamo un buco nella tela, per cui è inutile, dobbiamo andare là, fare un grande casino, certo, dimostrare che siamo vivi, e gli anni vedranno e sentiranno, e non è, questo non lo dico per i Marò soltanto. Mi sembra troppo tardi, ce l'avevamo qui in Italia, gliel'abbiamo ridati, a presto, aspetti. Ciao cani, ciao bestie. Tu sei come una piccola zanzara. Un bacino grosso e un abbraccio forte. Ciao, ciao. Beh, mi sembra ottimo il piano dell'Electrolux, no? E un'azienda che sta per chiudere dice, scherzo, no? I salari degli operai devono passare da 1.400 a 800 euro, premi abbattuti, pause ridotte, stop ai festivi e scatti di anzianità. Volete che non ci trasferiamo in Polonia? Volete che non ci trasferiamo in Polonia? Il prezzo è questo. E secondo te è giusto? La cura per non chiudere. È certo che è giusto. Il ricatto di un'azienda. Ma è questo. Ma non è il ricatto. Se o no chiudiamo. Andiamo via. Certo. Se no andiamo altrimenti via. Chiudiamo. Quale deve essere? Il ricatto. Uno può sopravvivere. Uno può sopravvivere. Non dire, non dire tutto, uno abbassiamo i costi di produzione. Senti, ad esempio, ma che fai adesso? Il coso? Fai no, il manager dell'Electrolux? No, il manager dell'Electrolux. Ma non può passare il principio che o è così o se ne andiamo. Fanno benissimo. Il costo del lavoro è troppo alto in Italia. Ma appunto quello va ridotto. Ma stai dicendo. Stai dicendo un'altra cosa, però. Bravissimi questi svedesi, sono brave persone questi svedesi. Ma come brave? Ma come, bravissime, ma come persone questi svedesi. Ma che dici? Sì, sono bravissime. Ma brave persone di che? Sono brave bravissime persone. È un ricatto. Ma quale è ricatto? Un ricatto. Ma quale ricatto? È un ricatto pagare un lavoratore 800 ma euro come in senti, Polonia. Loro dicono, è un ricatto. Loro dicono. queste sono le condizioni. E tu ti dovresti vergognare. Ti dovresti vergognare per quel che dici. Tiriamo giù la Claire e ce ne andiamo in Polonia. E ce ne andiamo. Certo. Ed qual è il problema? E poi dalla parola dove vanno? In Africa poi? Ma io non ho capito. Cosa facciamo? Le aziende dove costa meno il mercato. Ma che devi decidere? Scusami, che facciamo? Le aziende roulotte dove adesso in Polonia. Ma vuoi decidere tu dove si produce? Dalla Polonia dove vanno? In Madagascar. Poi dopo dove? In Corea? Ma vuoi decidere tu dove si produce o no? Io dico che... No, vuoi decidere tu, benissimo, vuoi decidere tu. Nonostante, semplicemente nonostante che i costi, vuoi decidere tu. Vabbè, infatti vanno abbattuti, infatti vanno, no, le aziende vanno aiutate, vanno, le aziende vanno, a non vanno, essere in questa come non possono permettersi di ricattare, non possono mettersi ma che ricatto. E se gli dicevano 20 centesimi allora? E se fossero 20 centesimi? Perché non si fanno i palloni come si fanno in questi alcuni paesi? Questi svedesi mi sembrano bravissime persone a me, questi qua dell'Electro, bravissimi, sono veramente molto bravi, molto bravi. In Svezia. Quanti sono i salari in Svezia? Oh, abbiamo in collegamento, non so da dove, credo da Bruxelles o da Strasburgo, Khalid Chaouki, buonasera. Onorevole intanto. Beh, sì, certo, buonasera, da Strasburgo. Buonasera. Come sta il primo deputato di origine marocchina nel Parlamento italiano? Come va Chaouki? Si è attaccato alla Lega oggi lei? Oggi sì, ho dovuto attaccarla, ma per difendere l'Italia. Qui a Strasburgo è iniziato il Consiglio d'Europa e purtroppo... Scusi, ma è una vergogna il fatto che è una vergogna secondo lei il fatto che la Lega sia rappresentata in Europa, cioè il fatto che ci sia un partito così in Europa è una cosa vergognosa con queste posizioni, eccetera? Beh, sicuramente perdiamo tanto tempo a difenderci da questa immagine che ormai ci si è appiccicata addosso, questo sì. Cioè è un problema, perché... la Lega in Europa è un problema. È un problema in Europa e purtroppo lo è anche in Italia, perché Italia, i danni innanzitutto li ha fatti in Italia. Che danni ha fatto la Lega in Italia, dice lei? Ma intanto è quello di sparare sul mucchio e di raccontare agli italiani che sembrano tutti gli immigrati, sono tutti criminali, delinquenti, quando invece il nord, la cosiddetta Padania è in piedi grazie anche al lavoro di milioni di immigrati che fanno tanti dei lavori che probabilmente... altri non vogliono più fare e loro per tanti anni hanno negato questo e ci hanno anche campato. Purtroppo. Però scusi un attimo, la Lega, lei stringerebbe la mano a Borghezio per esempio? La mano non si nega a nessuno, però le direi parecchie perché... Poi te la lavi magari. Te la pulisci, no? Poi dopo uno se la lava. Siamo a questo punto, però molte volte mi chiedo come possa una persona... onorabile dire quelle porcherie che hanno detto, insomma, anche in Borghezio, Calderoli e lo stesso Salvini, che vedo che insomma ha iniziato questo mandato con ormai insomma un chiodo fisso. Un estremista di destra, secondo te, è diventato Salvini? Secondo me è un più che estremista, è un imprenditore della paura, perché molti dei leghisti di questi, tra l'altro, poi in privato magari ti dicono no, ma guarda, l'immigrato che conosco io sono bravi, buoni, eccetera. Poi davanti a una telecamera, davanti a un microfono, fanno questa campagna mirata, non sapendo che intanto offendono milioni di persone e animano. Però scusa, secondo te questa campagna contro la gang è una campagna che alimenta magari può armare la mano di qualcuno contro la gang, secondo te? Secondo me anche questo è possibile, assolutamente sì. Anche questo è possibile e già anima le manine di tanti che dietro un computer mandano insulti, offese, minacce. E questo già non è da sottovalutare. E poi però scusa, ma c'era bisogno di un ministro di colore che anche tu hai criticato, perché in realtà poi non è che ha portato grandi risultati, cioè, ha fatto più Chaouki della ministra. Ma lasciamo perdere quello che ha fatto perché Chaouki lui è andato al centro di Lampedusa per risolvere il problema, no? Il ministro poteva fare molto di più, però sicuramente è viva che ci sia Chaouki, che è musulmano e marocchino, in Parlamento, e viva che ci sia un ministro di colore, questo o no? Sicuro. Ma di sicuro ci ha fatto fare dei passi in avanti, intanto da oggi in poi, come in tutti i paesi europei, in America è normale che la gente pensi che ci può essere un italiano che non è bianco con gli occhi azzurri e biondo. Quindi già questo, vabbè, non è che gli italiani abbiano proprio la figura dei biondi con gli occhi azzurri. Beh no, però cioè, nel senso che per molti è ancora uno shock da smaltire, quindi questo è stato già di fatto positivo, che poi ovviamente... Io ho chiesto io stesso in primo da compagni di partito che la Chiang avesse un po' più di coraggio, fosse un po' più concreta. Questo non però scusami Khalid, è legittimo chiederlo. Sì, certo, Khalid, ma tu andresti a cena con Borghezio o no? Andresti a cena con uno di questi leghisti? Oppure ti fa un po' senso? Per esempio, una cena a casa a Borghezio ti farebbe senso? Perché dovrebbe andare a Borghezio? Farei molta fatica, ecco, farei molta fatica. Perché? Tra l'altro io non mangio il maiale, penso che insomma, ovviamente lui è un buon gustaio. E farei molta fatica. Ci sono tanti leghisti con cui dialogo tranquillamente, con uno come Borghezio, che è, diciamo, è, per me è uno dei principali responsabili del clima che viviamo oggi, perché è dagli anni 90 che me lo ricordo, con i suoi insulti, buffonate, eccetera, e farei parecchia fatica, ecco. Ecco, ma secondo te... Senti, Khalid, ma hai visto che a Roma ci sono questi 13 immigrati nel CIE di Roma che si sono cuciti la bocca? Come vabbè, quella è una estremo. Buffonata, dai, su, sì, però buffonata. Sei d'accordo con me che dovrebbero cucirsi la bocca i leghisti probabilmente in questo momento, più e più volte, dovrebbero proprio cucirsela? No, dovevo fare più che altro il digiuno, vedi, io da... Cioè, in che senso? Poi... Come digiuno? No, ecco, perché hanno fatto 13 e sono cusciti a bocca, non è una buffonata, Cruciani, perché io li ho incontrati e ti assicuro che è una cosa comunque dolorosa e anche pericolosa per la loro salute, quindi questo secondo me è un gesto molto pericoloso ed è anche difficile da accettare. Vabbè, ma se, questa, molti, se questi qua... 26 stanno facendo... Lo... 26 stiamo facendo lo sciopero della fame. Vabbè, ma non è che se uno fa lo sciopero della fame va sempre bene. Un po' di più, ecco. Ho capito, però Khalid, se non è che se uno fa lo sciopero della fame va sempre bene. Uno di questi a un certo punto, non mi ricordo dove, è uscito, ha commesso anche un reato una volta che era stato liberato, un palestinese qualche giorno. Cioè, la maggior parte delle volte queste proteste hanno dietro la volontà semplicemente di uscire senza. Cioè, uno che arriva in Italia e non poteva venire in Italia. Secondo te come va trattato? Non va cacciato dopo un secondo? Secondo me sì, o no? No, ma ci sono dei casi, il problema è che questi non hanno risposte, cioè quello che io dico non è che chiunque è illegale deve comunque andare oltre la legge ed avere un permesso di soggiorno, il problema è che a questi nessuno dà una risposta, quindi se uno arriva in modo illegale e non ha i requisiti per chiedere asilo politico, perché non scappa da una guerra ma semplicemente spera di vivere, ma è giusto che ci sia un impatto, ma che sia un impatto in quelli che sono i criteri della civiltà e soprattutto nei tempi giusti. E lì siamo di fronte a. Però scusa, quando sono nel CIE, Salvini dice che alla fine non è che sono trattati diversamente da come avviene in una caserma italiana quando uno faceva. Salvini dormisse una notte in un CIE, io lo sfido, prova ad andare un attimo a Ponte Galeria, ci dorme una notte e poi voglio vedere cosa penserà. Che succede? Sono disposto ad accettare diciamo quello che poi lui dirà dopo. Portalo con te, giusto, bello questo, bravo. Bello, Ponte Galeria bravo. È una roba allucinante, cioè sono delle gabbie di 6 metri chiuse, sembrano dei cani. Vada a Lampedusa, Salvini, ma sembrano dei lager nazisti? Beh, la situazione io l'ho paragonata a Guantanamo ed è così, perché sono delle gabbie all'aperto e vergognosi, cioè non è una cosa indescrivibile, e anche i poliziotti che ho incontrato devono comunque giustificarsi perché sono in imbarazzo, è una situazione indescrivibile, non è che noi vogliamo esagerare, dico chiunque ci andiamo insieme e andate a vedere com'è e magari Salvini riconoscere le persone nel più breve tempo possibile, e se tu sei entrato clandestinamente via a casa, show. Siamo qui con un deputato del Partito Democratico, Khalid Chaouki, nato a Casablanca in Marocco. A proposito, Chaouki, c'è un ministro marocchino, Lei magari è a conoscenza di queste cose, un ministro marocchino che oggi dice, un ministro in carica del governo marocchino, che Rubi all'epoca dei fatti con Berlusconi era maggiorenne. Ma questo ministro secondo lei è credibile? Se l'ha detto la doveva dire sulla base di documenti altri. Sì, quello dice che ha mandato dei documenti in una specie di valigia. Sembra strano che insomma sarebbe, è come la questione di Cota in Piemonte, cioè è arrivato un po' tardi. Cioè cosa? Quindi dice la spiegazione? Dice la spiegazione un po' tardi. Ma questo ministro è credibile oppure è considerato un buffone? Lei non lo sa, ovviamente. No. Ma ti fidi più, Chaouki, del governo di Rabat o del governo italiano? Cioè così, se uno dovesse, come dire, mettere, no? Cioè, questi ministri marocchini sono credibili oppure sono dei buffoni? Questo è il punto. No, ma come l'Italia, insomma, ci sono. Cioè, hanno anche loro, insomma, i ministri seri e i ministri un po' meno seri, come li abbiamo avuti anche noi. Per cui non puoi dire se questo ministro che ha detto questa cosa su Berlusconi è innocente, o mandato attraverso una valigia diplomatica le prove del fatto che Rubi era maggiorenne all'epoca, cioè non puoi dire se questo qua è uno serio oppure no. Penso che se l'ha messa in carica l'abbia detto, l'avrà detto sulla base di documenti e prove. Voglio sperare che non sia una mossa. Ma tu vuoi ancora il kebab al ristorante della Camera? Vabbè, quella era una provocazione pre-estiva e voleva semplicemente dire che dobbiamo abituarci nei luoghi pubblici e nelle, come nelle tutte le mense del lavoro, giusto, eccetera, giusto, ad avere anche la possibilità a tutti di avere un cibo, vabbè, consono a quelli anche che il couscous dovresti chiedere. Ho capito, ma tu ancora insisti che vuoi che ci sia, sì, un menù, diciamo, ma anche delle mense scolastiche, islamico, credo, chiamiamolo così per, sì, semplificare, un menù islamico alla camera, certo. Ma io dico perché non potrebbe essere possibile. Se c'è un deputato musulmano che vuole e chiede alla mensa questa possibilità, è una questione anche di libertà religiosa. Cioè noi, vabbè, ho capito, ma allora facciamo il menù ebraico, facciamo il menù ebraico, facciamo, no, il menù. Perché no? Perché no? Perché no? Ma scusami, c'è il menù per i vegani e per i vegetariani? Ma no, ma uno esce dalla camera, sciocchino? Uno esce dalla camera, perché e va a mangiare, sciocco, fuori. No, Cauchi pone, adesso glielo chiedo, una questione politica, cioè anche nelle mense delle, lascia stare la Camera dei Deputati, le scuole, che appena uno sente, negli ospedali, nelle carceri. Ma la camera, io nell'esercito, dai, per esempio, adesso noi perché ci stiamo andando, lui lo dopo, chiede anche a scuola, paesi, il couscous, ha ragione. A Lampedusa io ho incontrato due militari italiani, di cui una di origine marocchina, che difende l'Italia, la bandiera italiana, eccetera. Immagino che non mangi il prosciutto, ma è possibile che quando non c'è il prosciutto bisogna mangiare il formaggio? Io per anni a scuola, l'elementare, le medie, quando c'era alla mensa, ogni volta che c'era il prosciutto, io sono cresciuto a Parma, dove insomma i salumi sono il primo piatto. Ma la camera non si può occupare di mettere un menù. È una questione la camera di rispetto, non si può occupare di mettere un luogo, per carità, pubblico. Ma va benissimo. Ma adesso io non voglio, per me non è questo il problema numero uno, non è, vabbè, una questione di morte, ti credo, quindi, ti credo. La mia è solo modo per far riflettere. Allora che perché non mettiamo una moschea? Scusa, perché non mettiamo una moschea alla camera o al Senato? Vabbè, tu adesso vuoi tirare fuori questa. Ma no, guarda, non voglio tirare fuori, ma no, secondo ma te è ragionevole che uno metta una moschea al Senato o alla Camera? Ma certo, una stanza di vita alla preghiera. Penso che nei luoghi pubblici deve essere riconosciuto il diritto alla libertà religiosa per tutti. D'accordo, se ci in fosse un posto. Hanno fatto luoghi multireligiosi, a Fiumicino c'è una sala di preghiera per, bravo, tutti. E dunque? Se ci sarà da qui a tanti anni deputati di diverse religioni, buddisti, ebrei, musulmani, che ne faranno richiesta, è giusto che ci sia uno spazio anche per loro, come c'è un cappellano, è giusto, certo, che ci siano figure, certo, per, ma no, tutte le altre. Tu vorresti che la Camera, sì, da adesso, siccome, sì, c'è un deputato musulmano, fatene una ragione, sì, che, capito, aprisse una stanza per la preghiera. Fattene che una ragione, scusa, antidemocratico. Cruciani, adesso no, non mi fate, io non ho detto da adesso, sì, e non ha detto così, non ma ha ragione. Hai detto che sarebbe, che sarebbe una cosa opportuna che la Camera, siccome c'è, sarebbe una cosa legittima, non è una cosa legittima, strana. Se ci fosse la possibilità, sarebbe una cosa legittima, è una questione di diritto, di culto per tutte le minoranze. Ho capito, ma uno c'ha la anche allora, all'ospedale, te l'ha appena ricordato, allora, scusami, negli ospedali pubblici, Calide, scusa, ma apriamo una moschea in ogni paese italiano, dai, apriamo una moschea in ogni comune italiano. Ti piacerebbe? Ma questo non lo dico io, lo dice la Costituzione italiana. Beh, cioè, no, una moschea in ogni paese italiano, no. Dai, una se moschea uno la vuole, no, si deve aprirla, dice, certo. La libertà religiosa va garantita per tutti. E quindi se uno chiede di pregare, non è una questione che spetta al referendum, al leghista di turno decidere se o no aprirla. È una questione dimmi la verità, tu vorresti, principio, sarebbe possibile, se vorresti una moschea in ogni città italiana? Ma ci sono già, ed è giusto. No, che in ogni città. Io penso che, visti i numeri anche della minoranza musulmana in Italia, non ci sarebbe assolutamente nessun problema. Anzi, io credo, sì, che è molto meglio riconoscere luoghi pubblici, visibili, belli anche da vedere, perché la moschea ha una sua architettura, belli da vedere, che mantenere questi scantinati, i garage, dove purtroppo poi si, bravo, possono annidare anche gruppi strani o realtà clandestine, eccetera. L'Italia è un paese pieno di moschee, ma così, certo, te l'immagini tu, Calita? No, ma simpatica questa, ma cosa. Ma non solo di moschee. Non sarebbe la... Pensa, diciamo, come impazzisce cosa, la Lega, pensa come impazzisce, ma la perché Lega. Tu sei, ma tu sei mai uscito da Milano? Sei mai stato a Londra? La Lega si deve rassegnare, questa è la verità. Si deve rassegnare a una società che è multiculturale, multireligiosa, e che piano piano, diglielo alla Borghezio, stiamo mettendo un po' troppo, ma riconoscerà le libertà di tutti nel rispetto della Costituzione e delle leggi italiane. Diglielo alla Borghezio, che appena sente parlare di società multiculturale diventa pazzo. Ma Borghezio avrebbe tanto da imparare, penso che pure per lui sarebbe, perché noi ci piacciono appunto queste realtà quando andiamo a Istanbul, andiamo a Londra. Ma va rieducato, Parigi, va un po' rieducato Borghezio, hai capito, no? Dovrebbe ascoltare un po' di più e andare nelle nostre scuole, parlare con i tanti bambini che avrebbero tanto da insegnargli. Beh, una bella rieducazione in stile coreano, magari, no, la rieducazione di Borghezio. Lo porteresti in giro per le scuole italiane a sentire la voce degli immigrati? Sì, quello sì, forse, no? Sì, secondo me sarebbe una bella prova anche per lui. Vabbè. Ascoltare e per una volta parlare un po' poco magari, o non parlare, scusa. Ciao, a presto. Ciao, a presto. Ciao, ciao. A presto. Ciao. Buona Padania a tutti. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Monellacci. Ruggisce tutta la notte. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cosa ti devo fare? Ti farò quello che vuoi. Ma che mondo è questo? Ma che mondo? Sei riuscito Davide? A trasformarlo? Bau, bau. Davide? Bau, bau. Sì. Ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Allora, sono stati presentati per la legge elettorale oltre 300 emendamenti. 300 sì, emendamenti. Sì, sì. Dico 35 300. Solo il PD però. 35. Ah, sì, l'abbiamo già detto. Vari, cioè, ripeto ancora una volta. Matteo Renzi è stato eletto segretario con il 68% dei voti. Successivamente ha fatto un accordo con diverse forze politiche, in particolar modo con Berlusconi, per una riforma generale, riforma elettorale più riforma della Costituzione, eccetera, eccetera, il Senato, quello che sappiamo. Questo accordo è stato votato dalla direzione del partito, a larghissima maggioranza, con astenuti, nemmeno un voto contrario, nemmeno Cooper l'ha votato contro. Adesso invece, si cominciano a inserire, cioè il suo stesso partito propone gli emendamenti. Ma che mondo è questo? Ma in che cosa? Sentiamo il deputato del 5 Stelle Dall'Osso alla Camera, si parlava della questione. Dall'Osso? Sì, Dall'Osso. Vabbè, perché uno non si può chiamare Dall'Osso. No, per carità. Dall'Osso alla Camera si parlava della questione della Banca d'Italia, una questione complessa, la privatizzazione, la cosiddetta privatizzazione della Banca d'Italia. Sentite cosa è successo. Davvero, io vi dico solamente vergognatevi tutti, vergognatevi. Tolga il cartello, onorevole Dall'Osso. Se no, che cosa mi fa? I commessi devono togliere i cartelli esposti, grazie. È iscritta a parlare la deputata Di Vita sull'ordine del giorno. Tolga il cartello, onorevole Dall'Osso. Questa è bella, eh. Se no, che paura. Se no che mi fa. Signora maestra, che paura. Ma dai, la sua amica deputati questa. Alla Boldrini. Però c'ha ragione in questo caso. È alzato un cartello alla Camera. Scusami, ma se c'è il regolamento per tutti, no? Che vale. Ma lui ha alzato un può cartello, sbeffeggiare dai, il regolamento. Lui sbeffeggia il regolamento della Camera. Al di là del merito sulla Banca Italia, che magari ha ragione. Ma può uno sbeffeggiare un regolamento che riguarda il vivere civile dei deputati là dentro? Allora, pare che ci sia un accordo su alzare la soglia del premio di maggioranza, come vuole pare Napolitano, al 38%, dal 35 al 38%, cioè si va al secondo turno se la coalizione, cioè, non raggiunge il 38%. È come consegnarsi, secondo alcuni esponenti del centrodestra vicini a Berlusconi, è come consegnarsi nelle mani del secondo turno, eh. Questo è il punto. E dunque, in teoria, con un secondo turno favorevole alla sinistra con i voti di Grillo, vabbè, questo nelle previsioni. Cioè, il premio di maggioranza 35 passa al 38, già cominciano le modifiche, da me è una buffonata, io non ne posso più. Poi ci saranno gli emendamenti salvalega, cioè il PDL avrà detto sì a questa roba qui perché avrà ottenuto altre cose, il solito mercanteggiamento, non è cambiato nulla, dai, Riccardo da Potenza, un vergognoso mercanteggiamento. Renzi doveva cambiare soprattutto il metodo, cioè dire presento un accordo e quell'accordo è blindato. Adesso invece il metodo, non c'è più questo metodo. E c'è il mercato delle vacche, dai. Beh, mi pare che l'assalto alla diligenza però lo facciano tutti, eh. Sì, lo fanno tutti, snaturando tutto. Quello perché gli dà il contentino sulla soglia che si alza, gli altri daranno il contentino, certo, sulle preferenze, quegli altri avranno un contentino sulle mezze preferenze, certo, gli altri avranno un contentino sulle soglie e che saranno più basse. E viene a fare una porcheria? Basse. Certo. Riccardo da Potenza. Cruciani, la stimo, mi fa piacere, sicuramente non è della mia parte politica, però quando dice certe certe puttanate, certi pregiudizi. Sì. Veramente. Ma su che cosa? Scusi, su che cosa? Su che cosa? Non mi può dire che è bello fare a pezzi i dipendenti pubblici. Meno 500.000 posti di lavoro. Io sono molto dalla parte di Luttuak. Sono molto dalla parte del signor Pence. Non incompetente. Com'è? Scusi, aspetti un attimo. Luttuak. Noi pensa Inghilterra licenzia 500.000 persone, in Stati Uniti abbiamo tagliati 8,8%. Problema di Italia è che basterebbe licenziare i sindacati. Noi a zitto, che radio di Confindustria, io molto amico di questa radio, io dice che CGIL ha 5.700.000 iscritti, questo sindacato. Tu prendi tutto questa roba e licenzia 5.700.000 persone a casa, che non serve, che gente che è di sindacato mattina non lavora, dice no, turno, c'è assemblea, alza cartellino. 5 milioni di persone di iscritti sindacato dato CGIL, prendi Camusso in, tutto in un, e licenzi, primo problema risolto. Se non vuoi licenziare 5 milioni, chiudi la regione Molise. Ah, sì, è fissato. Tu hai 300.000 abitanti in Molise? Sì. Cosa serve deportali, Molise? Anche un nome deportali. Del cazzo, Molise. Tu devi chiamare. Prendi e porti in Puglia, ad esempio. Cosa serve Molise? Non serve. Non c'è neanche. C'è mare a Molise? C'è il mare a Molise? Sì, beh, c'è, sì, c'è il mare. C'è montagna a Molise? Poca. Beh, c'è anche in Puglia il mare, quindi tu non serve. Chiudi Molise improvvisamente, 300.000 persone, hai risolto. 5 milioni di iscritti CGIL, licenzi tutti, risolto fammi problema sentire Riccardo, tuo però, e Agnoletto Edward, anche. Edward, Agnoletto che c'entra Agnoletto adesso? Agnoletto Edward, è per fammi la pace. Sentire Riccardo, che c'entra la pace? È dal 91 che noi abbiamo avanzi primari, dal 91 li paghiamo solo per spese su interessi. Quindi che cazzo di spesa pubblica c'è? In Italia non c'è la spesa pubblica, e noi spendiamo per investimenti, prendiamo i nostri soldi, tassiamo un sacco le imprese, i lavoratori, li prendiamo e li mettiamo sulle spese per interessi. Quindi assolutamente non serve a nulla licenziare i dipendenti pubblici. Vuole licenziare qualcuno, prende i dirigenti e i vertici della ragioneria dello Stato, li sbatta fuori, perché almeno così. Beh, quello però lei vuole licenziare i vertici. Stato, vuole... miliardi, poi forse facciamo io comunque sono quasi sempre d'accordo con quello che diceva Luttuak. Sentiamolo un attimo ancora, prima l'abbiamo sentito su una parte, sentiamo ancora. L'economia inglese è ripartita, giovani italiani vanno a lavorare a Londra perché hanno licenziato 500.000 di pubblici dipendenti, 500.000 hanno mandato per strada, hanno ridotto le tasse e il risultato non è che la disoccupazione britannica è aumentata di 500.000, è diminuita di 1.500.000. In Italia il taglio della spesa pubblica sarebbe di tagliare 40-50 miliardi, semplicemente licenziando. Se tu licenzi questi funzionari che sono così costosi, tu rilanci i consumi. Dai, non ha torto, si è lutto, dai, su. Signora Camussi, Camusso è persona molto pericolosa. Ma in non... Stati Uniti avremmo portati a Guantanamo, signora Camussi. Ma no, perché non esagerare, se 5 dai, milioni Edward, di non pericolo, 5 milioni di persone pericolosi. Vabbè. Dentro il sindacato. Vabbè, ho capito. Sentiamo Marco da Treviso. Ciao, grandissimi. Dimmi. Complimenti per la trasmissione che mi ha allietato e la guida la sera. Ascolta, vai, Marco. Io chiamo per quel discorso che avete sollevato, che guarda, per me è un problema il discorso di questi pubblici esibizionisti per la strada. Ah, i famosi gay esibizionisti. Allora, che avvicinano i camionisti. Sì. Allora io ti spiego una cosa, che un conto è il discorso dei parcheggi, ma un conto è quando sei in strada con magari 500-600.000 euro dietro, che ti si affianca una macchina, cosa può essere secondo te? Ma e che comunque, ne so, uno che ti supera. Hai capito? Vabbè, ma a te che cosa è successo in particolare? Allora, scusami. Questa mattina all'1.40, guarda, e questa sera ho detto vi chiamo. Cioè all'1.40 di pranzo? Sì. No, all'1.40 di notte. Di notte, allora? Sì, quindi, allora io parto da casa. Che cosa bofonchi sotto la microfono senza dire un cazzo? Ma parla, bofonchi, non si capisce nulla. Post meridiem, ho detto. Ma no, parla come post-meridiem. Tanto bofonchia, non si capisce un cazzo, disturba e basta. PM, post meridiem. Vabbè, ma parla, oppure non parlare. C'è un borbottio di fondo, non si capisce una sega. Allora, Marco. Grande. Allora, all'1.40 mi metto sulla tangenziale. Ari bofonchia, Marco. Allora? passa questa macchina con una cosa dentro, ma non sono riuscito a capire cosa aveva. Io andavo piano, questo mi ha aspettato giù della tangenziale di Mestre, sulla prima rotonda che ti metti verso Ravenna, che è buio, non c'è nessuno, poi all'1:40. Allora, io ti spiego la scena, perché non l'ho capita neanch'io bene, l'ho capita dopo. Beh, vediamo, questo sentiamo. Ha aperto la porta, ha tirato giù i pantaloni nel frattempo, aveva un vibratore. Capito? E che si è tirato a fare giù i pantaloni, scusa, c'era il vibratore. Là, là ti voglio, se l'era messo... Se l'era messo in mezzo alle chiappe. Vabbè, no, scusami, però siamo all'1:40 di notte in una piazzola. Tu ti vai in questa piazzola, trovi questo tizio. No, io passavo, correvo direzione del mio viaggio verso. Lui si è fermato, ha fatto tutto questo e mi ha fatto il gesto, hai capito? Come se serviva, che mi serviva di gonfiare una gomma. Bene, non contento. Mi ha seguito più avanti, io dovevo fermarmi a far gasolio e self-service. Si è fermato ancora là, è stato lì. Allora, facendomi sempre questo gesto qua da dentro la macchina, allora io mi domando una cosa. Alle 2 di notte, ascoltami, io sono andato a letto alle 6 di sera per partire all'1. Allora? Ma sta gente qua, cosa fa in giro? Vabbè, ma ho capito, ma io non ho capito bene la scena, al di là di quello che fa o quello che uno non fa in giro. Ma non ho capito, appena si è avvicinato, qual è stata la scena? La scena che ti fa finta se hai bisogno che devi gonfiare, capito? No, non ho capito. Sei fuori un pompino o no da lui, non lo so se è a pagamento o cosa. Ma il vibratore? Il vibratore ce l'aveva in macchina e prima se l'era messo in mezzo alle chiappe, lì in mezzo alla strada, hai capito? Vabbè, ma questa qua è una roba veramente da porci, cioè una roba veramente... Da porci, allora questa gente è porca. E vabbè, ho capito, ma insomma... Ma perché lo dice a noi? È questo che non capisco. Perché deve telefonare per dirci questo racconto? Perché chi se ne frega? Avete ma non abbiamo sollevato nessun problema. È solo Grugiani che solleva un appello, questi problemi. Faccio un appello un attimo, un appello. Tu vieni via con me, ti porto via, ti faccio vedere cosa succede. Bravo Marco. Ma ditelo alla questura. Fammi un appello sul baracchino, di chiamare qui. No, il baracchino, adesso sono fermo su un ristorante dove non ci sono questi problemi. Ah, vabbè, ok. No, il baracchino della tua la radio, non del ce l'ha tuo adesso, è spenta, Vabbè, è spenta, che ne so, dovevi farmi un appello. Ma un appello, noi sappiamo tutte queste cose qua. Solo che il problema non è per i parcheggi, perché nei parcheggi... Vabbè, ma te che ti frega? Che ti frega se succedono queste cose? Scusa la fine. No, ma ascolta, tu a 1 di notte, se hai un carico pericoloso dietro, ti viene una macchina a fianco, può succedere qualsiasi cosa, potrei tirare una sbandata, potrei fare dei morti. Questo viene in parte con una luce come stanotte. Chi può essere? Possono essere anche i banditi. Sì. Io ti dico che personalmente c'ho una... Un attimo solo, aspetta. Davide, vai. Ristorante. Sarà mica il giorno di chiusura? Sospetto, ce l'ho. Che è chiuso? Beh. Qua hanno tanti tavoli da servire. No, ma avrebbero risposto, dai, su. Eccolo qua, Luigi da Perugia, dai. Salve, buonasera. Dimmi. No, volevo dire, io sono un consulente immobiliare, no? Sì. Sì, le aziende le stanno portando via tutte quante. Dall'Italia le comprano i cinesi. Sì. Adesso io sto vendendo un'azienda vitivinicola a dei cinesi. Vabbè, dunque? Sì. Non si può scandalizzare Parenzo. Non si deve scandalizzare. Parenzo vive in un mondo così, Io ho parlato di un ricatto. Questi hanno detto: molte aziende toscane vendute ai cinesi. Volete che rimaniamo qua? Investire qua. I patti sono questi. No. Volete che rimaniamo qua? Altrimenti ci andiamo in Polonia. Non può esserci un ricatto per cui c'è un salario minimo. Ma che vuol dire? Ma non è che vogliono andare contro le regole. Ma non è vero, sarà. Non può essere. Ma non vogliono andare contro la legge. Stanno dicendo: non deve passare il ricatto delle aziende. Va bene, invece manteniamo le aziende decotte che falliscono. Ha detto manteniamole. Allora, l'alternativa qual è? Messe nella condizione migliore. Ma questo migliore è generico, che vuol dire? Per poter ci sono tante cose da fare, la riduzione del cuneo fiscale. E intanto nel frattempo, prima che si fa una cosa che si annuncia da anni, che fanno? Questi chiudono? Ma non rompere i coglioni, dai, e Alessandro. Uno accetta il fatto vuoi che sto in Italia a queste condizioni, altrimenti ti attacchi. Alessandro, come lo chiami? Ricatto? Non mi interessa, no? Ma sarà un ricatto. Non è un ricatto. Dicevano pure di Marchionne. Lo dicevano anche di Marchionne. donne, e non è così. Ma qua ci sono stabilimenti che funzionano, dai, su, devono chiudere. Alessandro dalla provincia di Torino, su, andiamo. Alessandro, ai lavoratori se funzionano. Sì, funzionano benissimo, quelli che sono rimasti aperti funzionano alla grandissima e sarebbero rimasti disoccupati gli altri. Alessandro, provincia di Torino. Allora? No? Sì, dimmi. Buonasera Cruciani. Buonasera Parenzo. Allora? Senta, le volevo chiedere, signor Cruciani, lei ha mai fatto soldato? Guardi, ho fatto servizio militare, sì. Allora? Sì. È mai stato in missione? Ma in missione che vuol dire? No, non sono stato in missione, allora? No, perché l'ho sentita prima che diceva... Sì, ma io posso essere... non ho detto non me ne frega niente, sì, ho detto anche non me ne frega niente, ma posso non essere appassionato? Bisogna avere per forza, bisogna per forza essere appassionati di questa storia dei Marò. Cioè, uno fa, come dire, le proprie missioni anche a proprio rischio e pericolo. Cioè, nel mestiere dei militari c'è anche questo, ma di che parliamo? Di cosa stiamo parlando? Al di là delle colpe e di tutto, posso essere non particolarmente appassionato. Ovviamente non voglio che siano condannati a morte. Ma vai, un'opinione. Questo però. È evidente. Ma non lo so, è troppo complessa la questione giuridica. Che debbano penso tornare che in sia Italia? Stato commesso questa un errore. Penso che sia stato commesso però, un gravissimo errore a rimandarli in India. Questo è sicuro al 100%. Una volta che non tornati in Italia. Scusi, sentire un mio patriota, un mio concittadino. Io ho fatto missioni in Somalia, ho fatto missioni. E vabbè, in pazienza. Dunque. Ma sentire un mio concittadino, un mio comunque certo. Io sono italiano nato puro come lei, dire che non gliene frega puro niente che vuol dire. Mi fa male. Ma non capisce? Mi appassiona questa vicenda dei Marò, non mi appassiona, ovviamente non voglio che siano condannati a morte, questo mi sembra evidente. Beh, ma non mi appassiona questa vicenda, non mi appassiona, che devo fare? Non mi appassiona. No, ma io sono d'accordo con lei che non la appassiona. Non sono appassionato a questa vicenda dei Marò e spero che tornino, ovviamente, ma non è che sto lì e faccio le battaglie con la bandiera italiana. I Marò tornino in Italia! I Marò tornino in Italia! No, non lo faccio. Ma no, per carità, io spero che tornino. E vabbè, speriamo tutti quanti che tornino, perfetto. Speriamo tutti. Erano già in Italia, li abbiamo rimandati, non abbiamo fatto nulla per portarli via. Fosse stato così necessario, fosse stata una cosa così, avremmo fatto subito un bel blitz, un meraviglioso blitz. A me scusi. A me da militare aver servito la patria fa male. Vabbè, le farà male. Come lei, che la reputa una persona molto intelligente, estremamente. Ho capito, ma io non ho detto che voglio male, Marò. Ho detto semplicemente che non sono particolarmente appassionato di questa vicenda. E con me credo che non siano appassionati un sacco di gente che magari dice, no, i Marò, eccetera, eccetera. La maggior parte delle persone non sono, secondo me, non è che stanno lì a vedere. Per carità, io voglio che tornino in Italia. Questo è il punto. Ma questo, vabbè, d'accordo. Ma questo è banale dirlo, insomma. Le passioni. Alberto da Firenze. Buonasera, vi ringrazio per la chiamata. Parlate di tanti argomenti, alcuni pure interessanti, a parte... vabbè, allora, veloce, che dobbiamo chiudere. Sì, velocissimo. Perché non parlate un po' dei comuni? Originariamente i comuni erano 8.000 irrotti in Italia. Ora, con tutte le società a capitale mista, sono diventate più di 80.000. No, ma lei ha ragione, su questo ha perfettamente ragione. 80, un attimo, 80.000 Ma è comuni. Per questo che ha ragione Luttwak, che bisogna disboscare il pubblico, tagliare. Quant'è che ha detto? 750.000. Ottimo, come l'Electrolux, ottimo. Grandi gli svedesi. A domani, 18.30, ciao. Carissimi amici, buongiorno, buonasera di questo passo, resterete disoccupati voi e io organizzerò anche la zanzara con tutti quelli che dico io, capito? Non vi abbandonerò mai. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Io detesto quasi tutto di tutto questo teatrino ignobile. Radio 24, la passione si sente.